Comunque voglio comunicare una cosa ai vostri radioascoltatori. Luciani è molto amato dai gay. Ecco qua, beccate questa, Luciani. La Zanzara. Scarpe col tacco, a porta, rifilo il mio pacco. Sotto il sedere ci metto un cuscino, per essere alto almeno quanto Bocchino. Da Bruno Vespa alle ore 21, vendo all'Italia un po' del mio fumo. Ma credo semplicemente che non siamo in condizione di avere un po' di tempo, però la invito a colazione per spiegarle che cos'è effettivamente l'effetto che ha lo spread e come non lo sa nessuno, guardi, credo di saperlo io perché me l'hanno spiegato i premi Nobel dell'economia. Va bene, prima non c'ero arrivato nemmeno io, pur essendo dentro protagonista dell'impresa. È un po' tardi, Presidente, andiamo un momento avanti e sentiamo. Sì, però voglio dire, stiano tranquilli gli italiani, perché sono state mascalzonate quelle che sono state diffuse e dette anche dal governo tecnico. Beh, devo dire la verità, caro Parenzo, te lo dicevo anche ieri sera, mentre insieme parlavamo di Berlusconi a porta, lo stesso fatto che ci siamo trovati a parlare di Berlusconi a porta, dopo vent'anni di cose promesse, magari di cose non fatte, alcune cose fatte, eccetera, eccetera, è la dimostrazione che ha vinto lui. Cioè, era in forma strepitosa. È grandioso, ripeteva le stesse cose, le stesse promesse, a un certo punto incrocia Mannheimer, sentite che succede quando incrocia Mannheimer. Renato? Lei ha ragione. Renato Mannheimer, adesso interrompiamo per 2 minuti di pubblicità. Lei sta guadagnando troppo, mangia perché? Troppo. Guardi che pancia che ha. Ha ragione. Ma non so se vi siete resi conto di quello che ha detto all'inizio. A un certo punto ha detto che lo spread, la vera storia della spread, la conosce lui e alcuni premi Nobel che gliel'hanno spiegato. Ma quali il premio? Ma non lo so chi sono questi premi Nobel, non lo so, ma è tutto strepitoso. A un certo punto ha detto: io sono più bello o più classe di Casini. E io che ho sempre avuto come scopo fondamentale quello di tenere insieme i moderati, perché tutti insieme siamo la maggioranza, se arriva il signor Casini e dato che è belloccio va in televisione, piace alle signore, invidioso, oltre, no, non sono invidioso, sono più bello io, vabbè. Ma comunque a parte questo, poi la classe è un'altra cosa, vabbè. Scusi, ma a parte se ne... Che poi ride alle sue stesse battute, cioè fa le battute e ride da solo alle sue stesse battute, è una cosa stupenda. A un certo punto ripete a memoria stupendo. Berlusconi Vespa, che devo dire era abbastanza puntuto ieri sera, perché lo pigliava anche un po' in giro, lo trattava come un vecchio nonnetto. Sì, era più un po' più pungente, signor Vespa. Strano, no? Perché non l'ha fatto in 9 anni di governo? Perché è assolutamente impossibile senza poteri. Perché il governo... Non mi venga a dire, lo so, no, che il governo... No, glielo dico. No, ci sono due motivi per cui nessuno può fare... Le faccia così. Lei muove la bocca e gliela riassumo io, perché la conosco a memoria. Va bene? Il governo non può farlo perché il Presidente del Consiglio non ha poteri, nemmeno quelli di sostituire un ministro o un sottosegretario. Dopodiché deve fare i conti con gli alleati che nel suo caso sono stati infedeli. Dopodiché va alle Camere, le Camere impiegano 1 anno e mezzo. Dopodiché magari va al Presidente della Repubblica, il quale magari gli gira e non la firma e quindi lo rimanda di nuovo al Parlamento. Finalmente poi lo firma. Qua dovete fare un applauso. Ma siccome però bisogna dire che in questo caso Vespa è stato bravo, non so se la se sì, la no, è stato molto coraggioso, perché ogni volta Berlusconi attacca con lo stesso discorso i poteri che non ci sono, sì. E va avanti, dice la Corte Costituzionale, comunisti, le cose, cioè questo, e Vespa ha detto riassumo io e ha fatto il verso a Berlusconi, sì. Anche 2 o 3 volte gliel'ha ma fatto, è stato molto molto coraggioso, questo va è stato coraggiosissimo a sfidare il cavaliere nella fase del declino, coraggiosissimo. Come sei ironico, eh? No. 800 24 00 24. Questa è la Zanzara. Lo spettacolo di Vittorio Sgarbi. Lo spettacolo di Vittorio Sgarbi. Oggi alla Camera. Oggi alla Camera. Ma chi lo vota, Fini? Chi lo vota, Fini? Chi lo vota? Mi pare che ci sia una persona di buon senso al mondo che può votare Fini? Cioè, ditemi come si può votare. Cioè, Fini è un fascista che sta con un nulla, che è Monti, con un democristiano che è Casini. I voti che aveva non li ha più, i voti che non aveva non glieli daranno. Quindi chi cazzo lo voterà Fini? Cioè, dove li trova i voti? Per poi proseguire, abbiamo già un ospite, che non è il solito cialtrone che invitiamo di solito. Meno male. Non è il solito cialtrone meno che male. Invitiamo, caro. Spero che questa volta lei però punti l'autorevolezza. Però scoppia un caso in groia, c'è molto Sgarbi da farvi ascoltare più avanti. Scoppia il caso in groia perché ha appena detto il signor Ingroia, secondo me perché non ha grandi argomenti di campagna elettorale, questa è la mia malevola osservazione, siamo stati spiati e pedinati da un'agenzia, è una sensazione condivisa anche con altri colleghi a me vicini, c'è chi sta indagando, qualcosa di torbido si è messo in moto contro di noi. Contro di noi chi, si dovrebbe chiedere? I magistrati di Palermo, si sta parlando della trattativa. Ma non è appena uscito, appena, non è appena uscito dal ruolo di magistrato, signor Ingroia. Dovrebbe parlare di programmi, fa campagna elettorale, noi spiati da un'agenzia. Però la cosa è gravissima, se è vero. Sì, sì. Bisogna capire d'accordo. Come ha avuto questa informativa. Comunque, signor Ingroia. C'è un caso Ingroia anche perché dice di essere stato censurato dalla Rai e da Sky. Sentite. Un clima, diciamo, di complessiva censura ed oscuramento di cui noi siamo vittima, di cui esempio il TG nazionale della RAI, dove noi non ci siamo, siamo stati cancellati, e da ultimo ho saputo proprio oggi che Sky ha deciso di organizzare il tradizionale faccia a faccia fra i leader, ma si è dimenticato del quarto candidato leader. Forse la cosa verrà recuperata, eh? Beh, sì, questo sarebbe giusto, dice, però. Dice Ingroia. Al di là di chi lo però vuole spiare. Però a me questa storia del piagnisteo non mi sta mai bene. No, cioè, però se è uno dei candidati premier è Sky giusto che ci sia Sky può decidere come vuole. Sky può decidere di fare poi successivamente un confronto tra Ingroia e un altro, eccetera, eccetera. Se a Sky interessa, a me poi la par condicio non lo prevederà, non mi interessa. Ma la storia è che c'è, cioè, la vicenda per cui una televisione, in questo caso una televisione privata, decidi di organizzare un confronto a tre tra quelli che hanno più possibilità di vincere, mi sembra naturale. Sì, però per complesso. Come chi ha più una. Beh, anche questo non è che si può dire che hanno più possibilità di vincere. E infine, beh, un caso assurdo. Ma dov'è l'ospite? Un sono caso qui in studio. Aspetta, a Roma. È collegato per telefono. Ah, aspetta. Perché allora, è la radio, è vero. Aspetta, sì, è la radio. Sì, mi è la radio. Allora, il caso assurdo riguarda alcune associazioni cattoliche o che fanno riferimento, ah, no, che dicono di bravo, essere cattoliche. Bravo su questo, bravo. Che protestano per con la 7 per avere messo in onda uno show di Guzzanti in cui. Che peraltro non è la prima volta che va in onda. No, è una ghechina non nuova. Sì, quella su Don Pizzarro, no? Meravigliosa. Sentiamo quella sui punti della patente. Si incazzano per questo, sentite. Pure a Coscio, a Giuliano Ferrara, che ci sarà tanto appassionato. Gli avevo detto, ma per far contento lui, Giulia, facciamo una cosa più piccola. A ste ragazze che abortiscono gli levamo i punti della patente. I punti della patente a chi abortisce? Beh, se porti avanti la gravidanza, non porti avanti manco la macchina. Sei un'assassina delinquente, visto mai mi viene addosso. Quello gli stava bene a Giuliano, non ho mai capito che voleva fare. Beh, io dico che è strepitoso. Già lo si conosceva. Adesso protestano perché la 7 lo manda in onda. Ma di che parliamo? Di cosa stiamo parlando? Perché avrebbe offeso non so quanti telespettatori cattolici. A parte che bisogna vedere se li ha offesi veramente. Perché a queste associazioni basta che scrivano in quattro e sembra che si mobiliti il mondo cattolico che guarda la televisione. Telespettatori cattolici? Poi ci sono i telespettatori, sì, buddisti? È vero, pure questo. Chi vuol dire? Bene, con noi un ministro, il ministro per la coesione territoriale, Fabrizio Barca, buonasera. Meno male. Buonasera. Grande sta? Barca, come grazie sta? Che alza un po' il livello di questa porcilaia gestita dal signor Cruciani. Scendo il livello. È uno dei massimi esperti di fondi strutturali europei, tra l'altro, signor di Barca. Di cui non vogliamo parlare. No, io voglio sapere tutto. No. Sì, no, lectio magistralis, no, perché è uno dei migliori. Sì, ma no. Fondi strutturali, ma no, è fondamentale. Dai, no, la cosa che voglio sapere innanzitutto, sì, è una cosa. Lei è ministro del governo Monti. Sì. Ancora, sì, giusto? Beh, sì. Assolutamente sì. Ah, sì. Sì. Fedele ministro. Ministro Monti, però, insomma, sembra che possa addirittura correre per la segreteria del Partito Democratico. Ma è vero che lei vuole puntare al partito così? Scusi se usiamo queste parole molto brutte, molto politichesi, molto cialtronesche. È vero che lei vuole, come dire, darsi da fare all'interno del Partito Democratico? Ma io ho detto che dopo, visto che c'è un dopo, ognuno qua, esatto, sta pensando molto dopo, io devo dire che per ora sto lavorando sul durante. Sì. però visto che poi il dopo qualche volta me lo chiedono, quello allora quello che ho in testa e quello che mi è venuto voglia sì. con ognuno di noi di fare durante questo periodo è di impegnarsi nella politica, che vuol dire tutto e niente, per me vuol dire nel partito, perché quello che ho ricavato da questo anno, oltre a tante altre belle cose, è che se non ci sono partiti organizzati sui territori, noi possiamo fare tutto quello che vogliamo dal governo, dalla regione, ma non si porta a casa il risultato. Ma nel PD? Quando lei parla di partito, parla di PD? Beh, sì, è nell'area di centrosinistra, dove io sempre sono sempre stato nella dunque, mia vita. Nel PD, cioè, beh, nel PD. Sì. Si vuole ma non, ecco, ma la cosa strana è che ho detto questo ed è diventato il segretario. Allora, scherzando, in un Twitter che ho mandato della gente, ho detto, ma qua ogni volta che dice una cosa, dice, vuoi fare il presidente? In un paese che ha circa 60 milioni di presidenti, no, non voglio fare il presidente, voglio... Vorrei potere, voglio vedere se è possibile impegnarsi in un partito. Senta Barca, ma lei lo farebbe ancora il ministro in un futuro governo, o Bersani o Monti che sia? Ma oppure io credo lo esclude categoricamente? Ma categoricamente non si esclude mai niente, perché avevo escluso tante cose nella mia vita, poi mi sono trovato a cambiare idea, ad esempio quella di fare il ministro, che mi è stato detto 50 minuti prima che dicessi di sì. Quindi ho imparato a non categorizzare. Dico che ci sono tanti modi di far politica. Se in questo momento sento e ritengo e penso, sto cercando di capire perché, forse provo anche a scriverlo, bisogna impegnarsi in un partito, vuol dire che non è la mia massima aspirazione fare il ministro. Vabbè, quello non significa, non sono le due cose, non sono in contraddizione, magari uno si impegna No, perché impegnarsi in un partito vuol dire lavorare a montare organizzazioni territoriali, reti, lavorare a pancia sotto a terra sul territorio. Dunque, che è un'altra cosa. Non si può escludere, perché di sicuro c'è solo la morte, però... Meglio la politica attiva, meglio la insomma, politica in quella un partito, di partito piuttosto così, che... Così. Girare così le sezioni... Senta una cosa, ma le piace, lei che è ancora comunque ministro, anche se per pochi mesi, del governo Monti, il le piace più... più di sinistra del governo Monti. Sì, dicono il governo più di sinistra, poi... Sì, può essere. Si sente il ministro più di sinistra del governo Monti? Sì. No, è un giudizio orario. Mi sento un ministro di sinistra del governo Monti. Di sinistra del governo Monti. Beh, però più a sinistra di lei il governo Monti. Magari ce n'è, non lo so, non posso escluderlo. Magari non me ne sono accorto. Beh, dubito che passera Fornero. Passera non mi pare proprio. Siano più a sinistra. La Fornero però... La Fornero è stata comunque, anche... Comunque. Niente esami del sangue. Senta, ma le piace più il Monti di quando era al governo o il Monti politico di questi giorni? Me lo dico onestamente. Il Monti politico di questi giorni, che fa anche attacchi, in alcuni casi personali, secondo me è come giusto che sia in campagna elettorale. Però le piace più questo Monti o quello un po' così, no? Un po' super partes, diciamo, durante l'esperienza di governo? Beh, il Monti Presidente del Consiglio è quello che insieme al Presidente della Repubblica mi ha chiamato a questo lavoro, è quello con cui che ho conosciuto in tutta la mia vita professionale in giro per l'Europa, è quello che può dare il massimo di sé, è quello che mi sono abituato a conoscere. L'altro non l'ho ancora conosciuto e quindi... Però dai primi passi, cioè per esempio le pare, se l'aspettava il nome Monti sulla scheda? Mi dica la verità, che apparisse il nome Monti. Io non me l'aspettavo. Forse quando si prende una decisione alla fine diventa uno la fa fino in fondo. Quindi le piace questa cosa scelta. O no? Dalla sua cultura politica dovrebbe rispondere. Sono in un'altra, appartengo a una cultura diversa e quindi non le piace. Il nome Monti sulla scheda non le piace. A differenza, ho la fortuna in questo momento che non dovendo fare propaganda, posso permettermi di non dire mi piace o non mi piace. Se io appartengo a un'altra cultura, quella non è la mia. Dunque il nome, vedere il nome Monti, cioè lei che ancora appartiene al governo Monti, vedere il nome Monti su una un simbolo di partito che si presenta alle elezioni è un po' le dispiace, un po' le dà fastidio, questo si può dire o no? Beh, non direi dispiacere, diciamo, se la mette in questo modo, in tutti i governi della Repubblica che sono stati di coalizione c'è qualche ministro che ha trovato il nome di un altro ministro o anche del presidente. Però in questo caso c'è la scheda proprio. In questo caso c'era solo la sorpresa. C'è una sorpresa, non se l'aspettava, diciamo. No. Non se l'aspettava. Ma questa agenda che Monti ha presentato, no, il suo programma, è molto poco di sinistra, cioè, diciamo chiaramente... La nuova agenda Monti di sinistra c'è molto poco. Ma guardi, io ho detto una cosa che penso, che non è con le agende, tanto è vero che può essere eletta di sinistra, può essere eletta di destra, può essere eletta di centro, cioè è generica. Si fa enorme fatica a discriminare sulla base delle agende, perché le agende cosa sono? Sono una tassonomia delle cose che bisogna fare. Sì, ma non è il programma di Bersani. Programma di Bersani, quindi è un'altra roba, cioè non vanno nella stessa direzione, se no... Ma ad esempio Scalfari, lo sapete meglio di me, sostiene che l'una e l'altra pari sono, cioè è molto facile a livello così aggregato e così generale dire delle cose che sono molto simili. Il problema, l'ho detto tante volte, è il metodo. Sì. Senta un attimo, ma lei preferisce, adesso poi abbiamo il traffico, preferisce il governo Bersani? Sì, lo so che preferisce il traffico. Un governo Bersani o un governo Monti? Lei fa il tifo perché Bersani sia presidente del Consiglio, diciamo la verità. Voterà Bersani innanzitutto, no? Non l'ho ancora detto, ma se appartengo a quella parte è evidente che, sì, che penso che lui sia, sarebbe uno splendido presidente del Consiglio. E dunque, quindi spera, farà campagna elettorale per Bersani? No, campagna elettorale non lo so, non credo che farà campagna elettorale attiva. Non farò assolutamente campagna elettorale. Però ci sarebbe nulla di male. Anche perché l'esercizio della funzione di governo in questa fase è delicatissima ed importantissima. Ricordo che qualunque cosa abbiano deciso i partiti che hanno sostenuto il governo in Parlamento, noi continuiamo ad essere un governo che è stato messo lì da tre partiti che in questo momento si contendono, ed è bene che ci siano dei ministri, e io sono questo, che continuano a svolgere la loro funzione senza... E dunque è sbagliato, trova inopportuno che alcuni ministri siano candidati, a parte che c'è Monti che sia candidato. A me fa piacere svolgere le mie funzioni in questo modo. Le dico un'altra cosa, dato che molte delle cose che faccio, se io da domani mattina mi mettessi a fare propaganda, diventerebbero difficili da farsi, visto che lavoro molto con i presidenti di regione, che sono di tutti i colori, e per me è importante. Le hanno chiesto di candidarsi e lei ha rifiutato, questo ormai si sa, no? Cioè lo possiamo dire. Comunque lei spera che Bersani veramente comunque ha detto che non candidava nessun ministro. Sì, quindi. Però gliel'hanno chiesto, cioè c'è stata qualche... Nessuno le ha chiesto di candidarsi. No, perché ho detto sin dall'inizio che non l'avrei fatto, e questa è la cosa migliore quando uno non vuole fare anticipare le cose. Traffico, torniamo subito con Fabrizio Barca, che è ministro per la coesione territoriale, che non si candida, però fa il tifo per Bersani. Io uso la parola fare tifo così. Tifo mi piace. Però con terzietà, sempre. Fa il tifo, però continua a fare il ministro. Come elettore. Terzietà, non parteciperà ai comizi, non andrà in giro per l'Italia, farà il ministro. Comizi, esistono ancora i comizi. Ma come no? Certo. Esistono ancora i comizi. Danzano come zanzare queste ombre. Allora, a un certo punto ieri sera Berlusconi risponde a quello che Albertini ha detto qui da noi alla Zanzara, cioè che uno dei giudici che Berlusconi ha detto essere comuniste, le giudichesse comuniste, odio questa parola giudichesse, in realtà non è comunista manco per niente, cioè, l'ho detto Albertini ieri sera, no? Da noi. Sì. Non è, anzi, addirittura è... ha votato per me del PDL, non è assolutamente di sinistra. Sentiamo Vespa che legge questa cosa a Berlusconi e la reazione di Berlusconi. Senta un'altra santa comunque donna. Comunque Gabriele momento. Albertini ne sta dicendo troppe. Gli consiglio di mettersi una bella cosa alla bocca, perché ogni cosa che dice deprime la sua immagine. No, quella stasera, che almeno stasera io conservavo detto, stasera ha detto di che me. Se Monti gli offre un seggio senatoriale lo accetta. Questo, il degrado evidentemente. Degrado. Chi non viene con lei si degrada. Ci sono delle senilità che avanzano. Sentiamo un'altra signora, un momento solo. Senilità che avanza. Allora, bisogna sapere che Fabrizio Barca, che è in collegamento con noi, ministro per la coesione territoriale, più volte ha detto di essere comunista, che poi non so cosa, di essere stato comunista, giusto Barca? Insomma, adesso è essere o essere stato, non so cosa si può usare. Militanza, PC. Barca c'è? Ci sono. Eccoci qui. Ma è vero che una volta Berlusconi le chiese se era comunista o no? È vero. E lei cosa ha risposto? Però lo ha fatto dopo avere deciso di nominarmi nel Consiglio dei Ministri capo di un dipartimento e ha scherzato dicendo figurarsi un po', qualcuno durante la mia durante la riunione del Consiglio ha detto che non potevamo farlo perché era comunista, come dire, e mi si aspettava che io dicessi ma figurarsi che ha detto, io gli risposi che è una malattia incurabile di famiglia. Ecco appunto, questo lo disse dai nostri amici di Un Giorno da Pecora, però... La cosa curiosa è che poi lei fu nominato da Berlusconi, pur essendo riconosciuto come comunista, è stato nominato da Berlusconi capo del in odio a Tremonti, capo del dipartimento delle politiche di sviluppo. Delle politiche di sviluppo, forse in opposizione. Era Tremonti che l'aveva lasciato un po' da parte? No, era Tremonti che aveva proposto il mio nome in consiglio, e dopo lunghe riunioni, tre riunioni, finalmente mi E chi è che si opponeva all'epoca? Fini. Fini si opponeva perché così mi disse il presidente Berlusconi, perché diceva che lei era comunista. Così mi disse Berlusconi. Cosa pazzesca. Quindi più anticomunista Fini di Berlusconi. Senta, ma Berlusconi però, possiamo dirlo, qui, è stato caso, il peggior primo ministro in però, questo della caso italiana, in questo forse. Caso in questo caso non fu di ostacolo per Berlusconi il fatto che lei era comunista, è comunista, quello che è. Ma francamente non l'ho visto essere di ostacolo lui personalmente, d'altro canto in questo gli ho sempre visto uscire lo spirito di, come dire, suo originario imprenditoriale, quindi quello che si, se la persona poi la proposta era Michichella, non era sua, Michichella la considerava, la Michichella aveva detto sempre che lei era bravissimo. Sì, Tremonti aveva fatto la mia proposta, fui molto criticato allora, molto criticato a sinistra, fu anche sgradevole per me perché mi si disse che chissà cosa avevo fatto, dimenticandosi che un dirigente dello Stato lavora per lo Stato e anzi indipendentemente da chi governa. Cioè le fu rimproverato a sinistra di essere stato promosso sotto Berlusconi. Venduto a Berlusconi. Pesantemente. Ma però possiamo dire oggi che Berlusconi è stato uno dei peggiori primi ministri della storia italiana? Secondo lei è così? Questa è bella, questa grande Marca, la prego Marca, l'abbraccio proprio così a distanza, proprio, però possiamo dirlo, questa è proprio tosta, secondo me ce ne abbiamo avuti 55, credo 54, sì, uno dei peggiori, ce ne sarà un'altra, però non le viene in mente ora Marca, però ora non le viene in mente. Tambroni Tambroni, amico mio, vabbè, ma come Tambroni? Il suo ritorno sarebbe un po' un film dell'orrore, Marca. Sì No, ma non noi siamo abituati alle parole forti, lo so che per lei le parole forti. Ma non è, ma lo sanno tutti, lo sanno voi che continuate a parlare. Che non succederà, Santoro che decide di aumentarsi la sua share invitandolo e quanti altri, lo sanno tutti che è un'altra storia parallela al dibattito vero che avviene in un paese, ma avviene in tutti i paesi. Una storia di che, scusi, una storia di è follia? È una storia che in tutte le vicende politiche sempre esistono, ci sono vicende di leader, il problema è in che modo viene vissuto dai partiti in un paese in cui ci fossero. Proviamo a rimettere la cosa sulle sue gambe, perché poi la responsabilità non è sua, la responsabilità è dei partiti e di chi ne fa parte. Se ci sono dei partiti radicati nei territori, poi a un certo punto evidentemente il ciclo naturale delle cose fa il suo corso. Ho capito, anche per persone di grande valore, io tenga conto, e lo voglio dire, ho sempre di fronte la figura di mio padre, quando lui ha perso in politica si è ritirato, e presto nella vita, bisogna saperlo fare, ma perché? Perché con tutti i vizi che aveva quel partito di allora, era un vero partito, aveva perso, basta, il no? PC, scusate, ma riconosce un merito a Berlusconi lei in tutti questi anni di politica? Un merito ce l'ha? La Pascale. Ma che c'entra la Pascale? No, chiedo, dico... Pronto? Ma, guarda, sì, pronto. Un merito, no, sta pensando. No, il merito io lo vedo molto nella sua attività, se proprio me la voglio tirare fuori, la tiro fuori facile perché l'ho raccontato spesso all'estero. Lo vedo indipendentemente dalla sua accumulazione originaria, lo vedo nel fatto di avere ribadito che in Italia gli imprenditori non sono soltanto quei 5-6 che si sono autoproclamati re dell'Italia, noi ne abbiamo avuti, ma di uscire di venire dal nulla, di costruirsi. Ed è la ragione per cui poi probabilmente si è aperta di essere la strada... stato fuori dall'establishment, dice esattamente, la ragione per cui si è aperta la strada della politica, per cui lui stesso probabilmente ha sentito di scegliere la strada della politica, è perché è un paese in cui altri che in passato, ma negli anni 50, 70 venivano dal nulla, erano stati massacrati dai poteri forti, fuori dal salotto, dalle piccole cerchie. Questa cosa la sinistra non l'ha capita per molti anni. E se non la si capisce, evidentemente non si capisce perché ha raccolto anche personalmente così il consenso di un ceto medio, esattamente. È interessante questo. Senta, un'altra cosa invece più di attualità, naturalmente. Il è meglio, secondo lei, però me lo dica sinceramente, un governo, lei spera che Bersani e Bendolo raggiungano la maggioranza sia alla Camera che al Senato? Oppure spera in un accordo finale di cui si parla? Il paese ha bisogno di un governo certo, di numeri robusti, e quello è l'unica coalizione che può raggiungere, lì credo che sarebbe la solidità e il futuro del paese sarebbero più forti se così fosse. Dunque Vendola non è un conservatore, come ha detto Monti. Vendola è un innovatore che ha dimostrato di essere un innovatore. E ha sbagliato Monti a fare quella l'ho frase. L'ho detto con serenità, non credo che abbia sbagliato. Sì. E ha sbagliato anche a usare quella parola silenziare a proposito di Fassina. Beh, ho sentito che mandavate in onda Berlusconi che diceva mettere una cosa alla bocca, quindi evidentemente deve essere una cosa di moda, ha mutuato alcune frasi. Ecco, anche appunto... Monti si è un po' berlusconizzato nel linguaggio, forse. Vabbè, gli è scappato una questo volta, l'ha detto lei. Silenziato, no, lei non lo silenziato, crede eccetera. cioè è meglio un governo Bersani-Vendola che un governo Bersani-Monti per lei? Ma io credo sarebbe che più chiaro, più sarebbe... sono, le lo dico con molta sincerità, sì, più sono coese e sincronizzate. Se ci sono due leader, sono loro due che convergono su una sola agenda, certo, per quanto io non sia un gran fan delle agende, ma con, su un metodo, in più uno dei due, tutte e due hanno governato, uno ha fatto il ministro, l'altro ha fatto il governatore di una regione, mi sembrano che abbiano tutte le carte in regola. Per, ma io sono per... d'accordo con lei su questo, più maggiore chiarezza c'è, poi ovviamente uno le simpatie vanno da una parte o dall'altra. Poi se sbagliano, dopo cinque anni, come in tutte le democrazie di questo mondo, si prova qualcun altro. Cioè sarebbe un governo, a parte che sarebbe impossibile, comunque un governo Monti, Bersani, Vendola sarebbe un pasticcio, insomma. No, comunque, non l'ho detto. La no, stampella, no, la stampella. La famosa... No, non credo, credo che troverebbero la convergenza, ci sono. Ci sono molti, sì, elementi, cioè, riuscirebbero sicuramente a governare bene assieme. Lei mi ha chiesto se dico che l'altro, la cosa che preferisce, più, sì, più certo, stretto, certo, dal punto di vista della coesione e del, anche di questa fase delicatissima sociale del paese. Però dunque lei in realtà è la prima volta che voterà PD, perché perché la scorsa elezione non ho detto che voto PD. Beh, come no, l'ha detto. Sostengo il sostiene, ho sostiene detto che voto centrosinistra, ci sono più di un partito. Ah, potrebbe votare anche Sella, allora. Lo valuterò, lo valuterò sulla base dei candidati che sono, come dire, non c'è molta scelta, vediamo. Scusi, che se anche vuole, Sella. Se vuole, no, se, no, ha detto se vuole lavorare all'interno di un partito, il partito è il Partito Democratico, ma ha detto adesso non vota. No, sono per me sono due cose che devono trovare una convergenza. Non è sicuro ancora di votare Partito Democratico? Ma guardi, glielo ripeto, lei è uno di quelli che ha detto che bisogna dichiararlo tranquillamente senza problemi. Io sono d'accordo con lei. Io guarderò i nomi, perché dato che ha scelto i nomi gli uni e gli altri, vedrò chi c'è in lista tra Sell e PD. Potrebbe votare Sell anche. Sì, vabbè. Beh, grazie, ha detto che buona serata. Buona serata. Saluti. Grazie, grazie ministro. Voglio subito chiedere a David Parenzo la sua quota. Io odio i saluti in radio, per cui non mi fare mai più buonasera a lei. Non li fare mai più, è una cosa che trovo insopportabile. Gli anni 60, buonasera, 70. Buonasera basta, a tutti. Basta! Basta! Ogni ecco, tanto c'è questa voce che... Allora, sì, allora dimmi la quota, sì, dell'abbandono. Sai che i bookmaker sono scatenati, no? Su Berlusconi, certo, da Sant'Orso. Sì. Allora, secondo te se ne va o non se ne va? Non se ne va. E dunque molto alta la quota. Altissima. E secondo voglio fare una quanto? Scommessa con te qui stasera, sì, 100 euro che non se ne va. 100, ma anche secondo me non se ne va. E allora che cazzo di scommessa? Scusa. Devi invitare qualche ascoltatore. Cioè se ne va Santoro. La cosa meravigliosa sarebbe che Santoro è quotato a 100. Berlusconi che se ne va, secondo me dovrebbe essere quotato a 10. Ma perché dovrebbe andarsi? Cioè, a meno che non la facciano proprio impazzire a un certo punto. È da solo in studio, c'è Travaglio, voglio dire, perché ha lanciato la sfida. Anzi, meraviglioso, il suo popolo sarà tutto lì ad aspettare, il gladiatore dell'arena dei leoni. O lo trattano come ha fatto ieri sera Vespa, un po' come un nonnetto anche un po' rincoglionito. Ma no, anzi, sarà una grande sfida in cui se... Beh, io voglio risentire la cosa di Vespa, perché ha fatto una grande performance, devo dire, il signor Vespa. Vespa ripete che ripete a memoria Berlusconi, veramente, ma veramente... soprattutto strano che lo faccia nel momento del declino, dai, di Berlusconi. Su, oh, basta, no, scusa, con sta storia, no, dai. Non è vero. Perché non l'ha fatto in 9 anni di governo? Perché è assolutamente impossibile senza poteri. Perché il governo... Non mi venga a dire, lo so, no, che il governo... No, glielo dico. No, ci sono due motivi per cui nessuno può fare... Le faccia così, lei muove la bocca, gliela riassumo io, perché la conosco a memoria. Va bene? Il governo non può farlo perché il Presidente del Consiglio non ha poteri, nemmeno quelli di sostituire un ministro o un sottosegretario. Dopodiché deve fare i conti con gli alleati che nel suo caso sono stati infedeli. Dopodiché va alle Camere, le Camere impiegano un anno e mezzo. Dopodiché magari va al Presidente della Repubblica, il quale magari gli gira e non la firma e quindi lo rimanda di nuovo al Parlamento. Finalmente poi lo firma. Qua potete, dovete fare un applauso. Va, sì, va bene. Ma siccome quella legge... Non ho finito. Ancora gli attacchi, non è che fa il verso sempre a Berlusconi, guardi in camera. Lì è successo come il fenomeno dell'acqua alta a Venezia. Posso riassumerlo io, rapidamente? Allora, nell'estate del 2011 la Banca Centrale Tedesca ordina alle proprie banche di vendere 9 miliardi di titoli di Stato italiano. E questo io lo so perché una banca italiana che aveva una filiale in Germania è stata costretta. Ancora. significa che l'hai detto tanto di quelle volte che non vuol dire che lo ripeta, no? Perché, no, dai, perché mi date sempre degli spicchi di audience, sì, non mi hanno mai audience, offerto un prime time, ma vengo qui che fa 2 milioni di ascoltatori, vado là che fanno 1,5 milioni, lo so. Ma poveraccio, capisco che lei è abituato alle manie di grandezza, ma 2 milioni, ma la votassero tutti, ma gli elettori sono 41 milioni, lo so, bisogna parlare a 41 milioni di persone, ma lei parla 5 volte al giorno, ma le sembra che se potessi fare in una volta sola come fa il capo dello Stato che parla reti unificate, le piacerebbe, sarei qui. Le piacerebbe. No, non mi piacerebbe. Lei le reti unificate, però mi piacerebbe avere qualche franchise. Questo lo comprendo. Vediamo un momento il. Quelli voglio, gli uni che sono accaduti noi. Ma c'è una notizia appena battuta da Lanza che la dà per certa Lanza. Potrebbero essere in lista per il PDL al Senato. Sì. Beh, due, marito e moglie, indovina un po'. Marito e moglie. Una è già senatrice, PDL al Senato. Una PDL è già senatrice. Al Senato? No, non mi viene al Senato. Una donna del PDL al Senato. De di cognome fa De. De Girò. No, Senato, PDL. No, non è De Girolamo. Senato, compro una vocale. De è la prima parte del cognome. De con la F inizia. De. Non mi viene. Basta. De Feo. No, la signora De Feo e la moglie di Fede. Emilio Fede e la moglie candidati entrambi al Senato. Al Senato tutte e due. Sì. E casa Fede, casa Vianello. Fede. Lo conosciamo noi per l'ultima performance. Io ancora oggi ho scritto al presidente dell'Impigi che il fondo pensioni, i miei soldi, va bene, li posso avere fra 7 anni, e andate a fanculo tutti, questa è la verità. Emilio, scusa, no, ma no, che... No, vi avete rotto i coglioni, voi compreso. Ma noi no, ma chi... Ma voi ha retto i coglioni. Ma chi ti ha scritto queste cose? L'Espresso? Mi dicono l'anticipazione dell'Espresso, ma vada a fanculo, l'Espresso è chi fa da capofila all'Espresso, che Berlusconi mi avrebbe dato 800.000 euro. Sì, ma così quale hanno... cazzo di 800.000 euro? Al Senato in Campania. Vabbè, quasi c'è. Certamente candidati marito e moglie. Beh, questa è la ma notizia. Scusa, piuttosto che far pagare a Mediaset tutti quei soldi a Emilio Fede, glieli paghiamo noi contribuenti, noi cittadini, mi sembra ma giusto. Dai, su. Ma scusa, ma che c'è da stupirsi? Già ci sono gli avvocati del Premier in Parlamento, mettiamo anche il direttore, l'ex direttore. Ma sì, del ma io non mi stupisco, Emilio Fede ha sempre chiesto, ha sempre fatto pressioni. Poi sarebbe un ottimo senatore. Vogliamo vivere. Ottimo, ottimo senatore, mi sembra una parola grossa. Show di Sgarbi oggi alla Camera, dove presentava non si capisce che cosa, Intesa Popolare col PD, lì non ci capisco più. C'è anche Intesa un grande Popolare ospite col PD. Qui poi seduto in, vabbè, comunque ha detto noi. Chi è Berlusconi, siamo gay. Vabbè, sentiamo Sgarbi. Il movimento politico Intesa Popolare è stato... Ma cos'è Intesa Popolare, Vittorio? Cos'è? Dai, prosegui. Che sono apparentate con il PDL, che è la grande madre da cui tutti sperano di avere il latte dei voti. Perché Catone, che ha questo nome così remoto e arcaico e lontano e saggio, come Cicerone, ha chiamato me? Perché sapeva dei miei rapporti intimi con Berlusconi, perché voi non conoscete la componente gay di Berlusconi. E questa va detta, la componente gay di Berlusconi è quella con cui cambierà la politica italiana. Avete visto che ha aperto le coppie gay, ma perché due che non sono... Beh... E innanzitutto poi ha detto: ho provato a chiamare Giannino con Berlusconi, perché Berlusconi sta cercando di raccattare tutti, anche i radicali. Sì, Pannella, forse anche Giannino, il quale dice continuamente che Berlusconi ormai è finito, morto, eccetera. Però pare che insieme la scena è meravigliosa. Sgarbi accanto a Berlusconi dice: chiama Giannino. Quello fa il numero di telefono e Giannino non risponde. È una cosa ormai pazzesca. Poi dice: il centro è il partito di tre stronzi. Qui abbiamo un rappresentante del centro. Qui sì, non, però non possiamo subito accoglierlo dandogli dello stronzo. L'ha detto Sgarbi, l'ho detto io, oggi alla Camera con Intesa Popolare di Catone. La maleducazione, appena seduto subito gli dai dello stronzo. Vabbè, dai, ma no, dai. Dai, fammi sentire un attimo, fammi sentire Sgarbi. Tu vuoi mai rubare il 22% di voti a uno perché non è abbastanza elegante, non è abbastanza chic? Tu lo devi abbracciare e fare come Veronica, poi glieli prendi. È ovvio, no? Cioè, non è che tu li puoi prendere gratis. Ma che cazzo di partito è? Il partito di tre stronzi, cioè, scusate, affettuosamente, tecnicamente, che vogliono prendere i voti di uno senza di lui. Dico, ma dovrò almeno entrare in casa per rubarti i voti? Basta! E poi una tirata su Fini, chi cazzo lo vota, lo vogliamo riascoltare? A proposito, facciamoglielo ascoltare, però a proposito di facciamo Fini. Riascoltare Fini da Sgarbi, avanti, cioè Sgarbi su Fini, chi lo vota Fini, vabbè. Mi pare che ci sia una persona di buon senso al mondo che può votare Fini? Cioè ditemi come si può votare, cioè Fini è un fascista che sta con un nulla che è Monti, con un democristiano che è Casini. I voti che aveva non li ha più, i voti che non avevano glieli daranno. Quindi chi cazzo lo voterà Fini? Cioè dove li trova i voti? E va bene, 800 24 00 24, è con noi Italo Bocchino. Eccolo, buonasera. Benvenuto. Buonasera a voi. Che accoglienza che l'abbiamo avuto. Vicepresidente. Mia, proprio con una questa, cosa. Ma mica colpa dolce, non è dolce. Non è appena arrivato. Dopo subito, queste nottate con liste, candidati, firme, moduli, arrivate voi due. Non so cosa è peggio. Come sta? L'abbiamo stanca. Manco c'è da rispondere a Sgarbi, dice lei. Sì. Io scommetto che prendiamo un voto più di Sgarbi. Rispondo con una scommessa. Ma scusi, facciamo una scommessa qui. Cosa succede che lei, se voi prendete Futuro e Libertà alla Camera, un voto in meno di Fratelli d'Italia? E che succede? Che è uno smacco, è uno smacco. Ma guardi, è uno smacco. Prenderemo un voto in più, Cruciani. Di Fratelli d'Italia? Ma sì, io sto qua alla Zanzara, l'audience è alto, la gente ascolta, ci vota. Votate Futuro e Libertà. No, adesso questo. Vabbè, sì, no, facciamo di parlare. Facciamo con questo audience. Come facevamo una volta? Come facevamo una volta quando faceva il momento sociale? Noi abbiamo avuto il coraggio di cambiare l'Italia. Non c'è più Berlusconi grazie a noi, c'è stato Monti. Il mutuo costa meno, i bot vanno meglio. Il debito pubblico, pubblico va meglio, l'audience della Zanzara cresce, tutto merito nostro. E viva l'IMU! Urliamo anche questo. Dica viva l'IMU. Bocchino, dica viva l'IMU! Viva l'IMU! Vi racconto due cose. Sì. Uno, sapete chi ha inventato l'IMU? Tremonti e Calderoli. Sì. Ma la volevano introdurre nel 2014. E l'ha votata pure Berlusconi. Sì, lo so, quello sicuro. E allora che volete? Quanto ha pagato lei l'IMU? Io? Sì. Non lo sa nemmeno. No, non pago IMU perché io non sono case. Proprietario di una casa. Tutto intestato all'ex moglie. Io sono povero come voi. Bene, allora io voglio però capire una cosa. Avete chiuso la lista, Bocchino? Sì. Abbiamo chiuso le liste. Le vostre di Futuro Libertà o no? Perché pare che ci sono quelle dei problemi. Quelle del Senato sono chiuse. Lei non c'è però, come mai? No, io devo confessare una cosa. Non è vero, non è questo. Devo confessare che ero molto preoccupato e sono ancora molto preoccupato. Perché un Parlamento senza Bocchino non ci può essere. Io sono ancora preoccupato. Diciamo, a quel punto tanto vale chiudere la Zanzara, un giorno da pecora. Poi tutto. Che si fa? Io sto facendo dei calcoli pazzeschi. Perché la cosa è questa. Lei, non so perché, inviso a Monti o a Bondi, non lo so, questi qua che decidono. Guardi, le do tre, una buona notizia e due cattive notizie. La prima buona notizia è che sarò candidato. E questo però per Futuro Libertà alla Camera. Esatto. In Campania. Esatto. E in Calabria. Sì. Dove ci sono più voti, tra parentesi. E quindi, esatto, sono seggio sicuro. Sicuro il seggio? Sì, seggio sicuro. Beh, diciamo che... Sì. Diciamo, sì. Se non fate lo 0,5. Un seggio che ha la solidità simile all'audience della vostra trasmissione. Beh, allora, tranquillo, è già deputato, onorevole, possiamo continuare a chiamarlo onorevole tranquillamente. Vabbè, insomma, adesso a parte gli scherzi. Le due cattive notizie ho un ottimo rapporto con Monti e anche con Bondi. Sì? Sì. Però, cattive notizie per voi, perché non c'è divertimento. No, però, scusi un attimo, molti hanno scritto, è vero che lo scrivono alcuni giornali, a lei non particolarmente, che non hanno un buonissimo rapporto Libero con lei. Il giornale. Però non solo questi giornali No, qua. Ma sai che c'è? Quando ci sono pochi posti, uno vuole prendere il posto dell'altro. Allora cerca di dare delle veline ai giornali nemici. Ecco. È come quelli lì che fanno uscire la notizia. Ah, Cruciani va in Rai a fare la trasmissione, in modo che quello che vuole la trasmissione dice: bravo. Ma perché ci dobbiamo via Cruciani quando ci abbiamo tanti bravi dentro che già li stipendiamo? Bravo. E dobbiamo dare uno stipendio a quello lì. Hai capito come lotta, Bocchino? Che un mangiapane a tradimento. Vabbè, grazie quindi per essere stato con noi. Praticamente questa è la situazione. Però è vero, però un po' c'è del vero in quello che dice. È bravo, però. Capito? Hai i soldi dei contribuenti per pagare. Chiudiamo la polemica. No, ma io non voglio, perché la voglio chiudere? Sto scherzando. Riguarda me. Sì. No, perché un mio amico in Rai che voleva condurre la trasmissione di Cruciani mi ha chiamato e mi ha detto: ma quello del tuo amico Cruciani viene qua a romperci le balle. Esatto. Da esterno, ho detto quello che ha detto Cruciani a un mio collega di me. Ho detto Cruciani: rassegnati, è solo più bravo di te, quindi lo merita di più. No, però scusa, Bocchino, il punto è questo. Scusi, ti vedo Mosci stasera. No, ragazzi. Che Mosci? Aspetta, no, sta Zanzara. Ci stiamo caricando. Aspetta un attimo una cosa. Allora, la cosa è questa: lei è candidato capolista? No, Fini sempre capolista, sarà numero 2 lei. O no, è capolista in Calabria. Da noi non esiste il capolista. Come no? E Fini per statuto. Fini. Noi, per statuto. Noi siamo una cosa, siamo un partito serio. Fini si candida dappertutto. Dappertutto, siamo serio. Siamo un partito serio. Che sono sti avete partiti? Avete non sempre partito, detto noi partiti padronessi, cioè avete la scritta Fini, scritta Fini enorme, sì. Così. Pure voi qualche contraddizione ce l'avete, Il brand è come se chiedessi alla Coca-Cola di togliere le Coca-Cola, la scritta Coca-Cola sulla bottiglia. Ma tira ancora il brand Fini. Tira, mozza, tira. Siamo tu, invece voi come la tira? Ma se vi danno sotto il 2%, che tira? Ma è tutto sbagliato, non è sotto, tutto sbagliato, sondaggi sono tutti sbagliati. Aspetta, parliamo, tempo al tempo. Ne parliamo giusto. Giustamente, tempo al tempo. Ma quindi non ho capito, lei in Campania numero però due... sfiderà la Carfagna? Eh sì. Chi? Lei, in Campania. Quale Campania? In Campania. Collegio in Campania. Il collegio in Campania. Ci sarà questo ci scontro Bocchino-Carfagna. Ci siamo già sfidati. Quando... No, ma dico lì, nelle piazze. Ma sa già successo nel 2006. Nel 2006 quando? Alle... E quando ero il capolista di Alleanza Nazionale, lei di Forza Italia. Vabbè, eravate insieme alle Alleanza. Qui siete avversari. Qui siete avversari. E vabbè, non fa niente. È una bella sfida però. Bella, è no? Pronto a questa sfida. Pensi alla salute. Sono prontissimo. È prontissimo a questa sfida. Però c'è anche dall'altra parte c'è un trio importante, pare, no? Sempre nel PDL, sì. No? Oltre alla Carfagna. C'è pure un trio Cosentino... Come lo chiama questo trio? Battezziamo non lo so, trio. Però fatemi avere il programma dei posti dove vanno, in modo che scelgo... Dall'altra scelgo, parte. Vedo la mappa della Campania, se voi mi dite ogni giorno dove stanno, vado dal comune opposto. Perché è pericoloso, dice. Brutta gente intorno. No, sono, diciamo, no, lo dica. Sono antropologicamente diverso. Io la combatto da ore, punge e poi fugge da me, e cerca il posto migliore. Ma che... Berlusconi ieri sera che ha detto un sacco di cose. Assumere come nero, ma quella chi se ne frega. Beh, lo spread che lo conosce solo lui, i premi Nobel, questa non è male. La vera vicenda dello spread la sa lui perché gli hanno detto i premi Nobel, però non voglio non sentire nemmeno quali. Questo. Non voglio sentire nemmeno. Ho realizzato tutto quello che ho promesso? Diciamo, facciamo questo, sì, no? Sì. No, quello no. Oggi ho sentito il senatore Baldassarri a Sky TG24 dire che la pressione fiscale, lui era al governo dunque, no, per una parte, è aumentata durante gli anni del governo Berlusconi. È stato vice di Tremonti, sì. Sì, certo. Sì, esatto. Mannheimer certo. Che pancia, no. Auspica i radicali in coalizione, vuole radicali, Giannino, tutti insieme. No, nemmeno questo, non voglio scattare. Ah, la Vezzali, è colpa mia, non gliel'ho chiesto. Sentiamo Vezzali. Non ma è riuscito dico, a tenersi nemmeno la Vezzali. Intanto noi abbiamo fior di campioni, ricordo che è stata nostra parlamentare, bravissima, Manuela Dicenta, che ha vinto tantissimi premi, anche più di Valentina. Ma è forse colpa mia perché non abbiamo portato nessuna offerta alla signorina Vezzali e probabilmente lei aveva voglia, visto che anche è stata abbastanza completa nel suo dire, aveva voglia di interessarsi di politica e di della cosa pubblica. Allora Ingroia protesta perché non va al confronto organizzato a Sky, protestare è sempre un errore, magari lo terrà questo confronto a Sky, siccome Sky non è tenuto a fare nulla, se vuole fare un confronto a tre, facesse un confronto a tre, poi Sky Ingroia se la vedrà con qualcun altro, qual è il problema? Io non ce l'ho con Ingroia, per carità, a parte oggi quando dice che noi siamo stati spiati da un'agenzia, noi che significa? Lui è ancora dei PM, insomma, parla delle inchieste, a campagna elettorale aperta. E la storia dei 5 Stelle in Sicilia che hanno dato una parte dello stipendio la trovo di una demagogia spaventosa. Perché? Sì, la trovo di una cosa ridicola, demagogica. Spendi i soldi per fare politica, si possono spendere i soldi che ricevi come deputato siciliano per fare politica, non per darli a Microcredito. È una mossa magari appariscente ma assolutamente demagogica. Sentiamo Cancelleri, va? Che peraltro sbaglia, dice abbiamo ritornato indietro i soldi. Sentiamo, Cancelleri che è il capo dei 5 Stelle in Sicilia. Siete sicuri che non ci voglia una delibera del Consiglio di Presidenza per la delega? Per ritornare indietro i soldi assolutamente no, ci siamo informati prima chiaramente, questa cosa è stata assolutamente... Ritornare indietro i soldi che è un'espressione un po' sicula. Italo Bocchino è con noi, 800 24 00 24. Ma è pronto Bocchino dunque, ad allearsi con Bersani? Adesso glielo chiediamo questa cosa di Bersani. Faccio male a preoccuparmi, lei sarà in Parlamento sicuramente, lo possiamo dire. Sarò no, non si sa mai, il giorno dopo si però sa. Lei faceva dei calcoli prima, li possiamo dire? Dopo, anche se erano un po' off record. No, non si possono dire. Non si parla degli esami prima degli esami, no? Vabbè, è blindato o no? Sì. Io? Sì. Io mi sento blindato solo a casa, adesso sì, sono un po' meno. Si sente un po' meno? È blindato, no, dico, è blindato sì. Adesso. È blindato un po', fidanzato. Abbastanza legati, sì. Vivete è ancora insieme? Fidanzato, sì. No, stiamo parlando del seggio. Ah, e non capiamo. Stiamo parlando del seggio. Abbastanza della vita privata. Io, diciamo, dal punto di vista sentimentale, ho un andamento simile a quello di Cruciani. No. Così no, altalenante. Però lei adesso è fidanzato, io no. No, è così altalenante, veramente. Però lei è fidanzato, io no adesso. Per cui... Non lo so. In questo... Ah, cioè siete così, siete due libertini, adesso prendo in mano la situazione, cioè siete due libertini entrambi, questo sta dicendo... No, io sono stabile ormai, sono stabile. Ormai, no, dice, ha detto di no adesso. No, sono stabile. No, siamo interessati perché è più giovane della Pascale la sua fidanzata. Sono stabile. Beh, ma io ho pure 31 anni meno di Berlusconi. Ho anche 31 anni meno di Berlusconi. Sì, non si può per questo biasimare il premier, no? L'ex premier. No, non dica lo biasima per quello, per avere una ragazza di 50 anni più giovane. Ma non lo biasimo per nulla. Beh, insomma... Adesso, ma come le appare in questi giorni? Mi dia una sua definizione delle sue alla Bocchino di Berlusconi. Io lo vedo un gran combattente comunque. Ieri non l'ho visto male da Vespa. Beh, al di là dell'oggetto. Beh, un uomo che ormai non ha più nulla da perdere e quindi può dire tutto quello che gli pare. E per cui questo fa da Santoro stasera, perché tanto. Cioè, ormai lui non ha più nulla da perdere. È stato detto tutto e il contrario di tutto. È finita, non potrà mai più tornare al governo del paese. Deve farsi questa battaglia per portarsi delle truppe in Parlamento. Al fine di tenere le sue situazioni, sia quelle degli interessi legati all'emittenza, sia quelle legate alle questioni della giustizia. Cioè per farsi gli affari suoi. E quindi non c'è un uomo disperato, lo descrive come un uomo disperato. Beh no, perché disperato? Beh, disperato nel tentativo di salvarsi. Questo un uomo a fine carriera che vuole evitare che finisca male con problemi delle aziende, con problemi giudiziari, e quindi vuole andare là con una truppa per difendersi. Non ha nulla da perdere, quindi può dire quello che vuole e può fare quello che vuole. Ha perso la credibilità internazionale, ha perso i voti, non andrà mai più al governo nella sua vita. Questa legislatura sarà dai 77 agli 82 anni, quindi diciamo grandi prospettive di leadership politica non ne vede davanti, e quindi sta così nella libertà di quelli che non hanno più nulla da perdere, quindi quello che gli viene in testa quello dice. Tutto, di tutto. Di tutto. Anche potrebbe persino dire che Cruciani è... Sì. È oppure chiamarmi per candidarmi oggi. Che Cruciani è bravo, ecco. Sì, potrebbe anche dire che no, potrebbe anche chiamarmi per candidarmi, tutto può succedere. Cioè... Sì, no, potrebbe addirittura dire peccato, non si è candidato perché mi sono dimenticato di chiederglielo. Ma e quelli che lo votano però ancora cosa sono? Allora sono ma quelli che lo votano... Sono tanti, però molti più di quelli perché... che voteranno Monti, pare. Sì, vabbè, ma allora è più facile prendere i voti dicendo che stanno arrivando i comunisti che mangiano i bambini. Perché ci crede ancora qualcuno? Che spiegando, beh, a qualcuno comunque piace questa cosa. L'anticomunismo. Comunisti, l'IMU, le tasse, le cose. Comunisti, l'IMU, dirà aboliamo l'IMU, l'ha votata lui. Scusa, uno gli risponde. Beh, anche voi volete rivederla, ma anche perché... Monti ha già detto l'ha messa, poi dice la rivedremo l'IMU. Ma guarda, rivederla è un altro discorso. Allora, l'IMU è stata messa da Berlusconi, votata da Berlusconi. Per il 2014. È necessaria per evitare di finire come la Grecia per il buco che aveva lasciato Berlusconi. Quindi il problema, lui può dire tutte le cose che non sono possibili, lui deve dire dobbiamo essere più alti noi bassi, più bassi quelli troppo alti, più magri grassi, più grassi troppo magri. Ma c'è sempre. Senta, mi dica la verità, in Lombardia, che è una regione chiave, per voi, cioè per Monti, per il progetto di Monti, che è chiaro ormai, cioè adesso lo dico io, è evidente che lei mi dirà dobbiamo vincere, vogliamo vincere, eccetera, però l'obiettivo possibile è quello di uno stallo al Senato, giusto? Ma io le dico di più. Sarebbe bello lo stallo. Noi dobbiamo determinare gli eventi. Cioè? Per determinare gli eventi bisogna essere in condizioni di costringere, tra virgolette, perché in politica non è bello il termine, il Partito Democratico e la parte riformista del PDL a tagliare le estreme. Cioè, noi dobbiamo avere la prossima legislatura un accordo costituente riformista che metta insieme la parte riformista e moderata del Partito Democratico, la nostra coalizione, la parte... Cioè lei vuole andare col Partito Democratico? È la parte buona del PDL, è la parte buona del PDL, per fare insieme le riforme, perché noi dobbiamo cambiare questo paese. Una grande anomalia. Quindi da una parte PDL, devono restare fuori la Santanchè Company, un pezzo del PDL estremista, e la Lega, e dall'altra parte... Cioè per cui queste coalizioni che si fanno adesso sono finte, è tutta una cosa finta adesso. No, se uno prende la maggioranza alla Camera e al Senato ha l'onore e l'onere di governare. Se non c'è, tutto è sparigliato. Se non c'ha la maggioranza una delle coalizioni alla Camera e al Senato, è meglio dar vita ad una convergenza tra le forze riformiste e cambiare il paese, come si fece in Germania. Lei adesso mi sembra chiaro, va più d'accordo con Bersani che con Berlusconi, mi sembra evidente, no? No, io non vado d'accordo né con Berlusconi né con Bersani, rispetto tutti, ma non vado d'accordo con nessuno dei due. Noi abbiamo un programma diverso che l'agenda Monti, vado più d'accordo con Monti, Fini e Casini. Sì, quello d'accordo. Sì, forza, però diciamo che è più vicino a Bersani. Si sente più vicino a Bersani che a Berlusconi. Bersani senza Vendola mi interessa più di Berlusconi. Bersani con Vendola mi interessa poco quanto Berlusconi. In Lombardia è meglio che vince Berlusconi, allora? In Lombardia è meglio che vinciamo noi. Vabbè, sì, mettiamo che poi non vincete, com'è probabile. E perché noi non vinciamo? Ci abbiamo Albertini, Candia, ci abbiamo un trio d'attacco. Sì. Sì, ci abbiamo Albertini, Ichino, ecco, lo sappiamo. Ichino e Mauro. Mario, abbiamo svuotato tutto lì. Abbiamo fatto strike. Bisogna vedere i voti. Andiamo a vedere voi. Scusate, ma pure voi volete discutere i voti il giorno prima? Voglio dire, è chiaro che per voi è meglio. Siete come quelli che parlano delle partite da domenica dal mercoledì antecedente. Ma l'immagine è quella di Monti che va al supermercato con un carrello. Dice: mi serve un po' di Albertini e prende un po' di Albertini, poi mi serve un po' di PD e prende Ichino. Secondo me state rosicando perché non ha chiamato voi. No, ma noi facciamo un altro mestiere. Noi facciamo un altro mestiere. Voi avete messo insieme un po' tutto. Ma è vero, però mi dica la verità: è vero che Monti un po' nei suoi confronti aveva dei pregiudizi? Questo è vero? No, mai. Abbiamo avuto colloqui cordiali, incontri cordiali. Non la considerava un ragazzino discolo, un po' uno. Magari mi considerasse un ragazzino. Discolo sicuro, ragazzino purtroppo non più. Discolo però lo sono. Tutto quello che hanno scritto, tutte stronzate. Cioè sul fatto che non la volevano candidare. No, non sono, come ha detto, stronzate. Stronzate. Non ha mai temuto. Sono veline. Sono veline. Ma non ha mai temuto per la sua candidatura, quindi. Eh? Non ha mai temuto un istante solo per la sua candidatura. Così quanto lei teme di essere licenziato perché stasera. No? Da perché no? Perché non è andato sicuro al Senato allora lei, Bocchino? Ma perché, guardi, non si può guidare una struttura per 3 anni e poi dire a ogni riferimento che hai in ogni comune d'Italia: senti, io mi metto bello cucciolo nel ventre della vacca e vado al Senato in carrozza, però voi mi raccomando andate casa per casa a cercare i voti per il simbolo di Futuro e Libertà. Non si fa così, bisogna avere la dignità di essere combattenti nel momento del combattimento. Sallusti ha scritto: dalla Bocconi Monti è caduto, è passato a Bocchino. Dalla Sallusti, il direttore Sallusti. Direttore Sallusti, come se fosse passato, diciamo, dalla Bocconi. Non lo so, so che domani c'è l'udienza preliminare per un rinvio a giudizio davanti al GIP di Milano, tra me e il giornale, e che ieri c'è stata invece un'udienza civile tra me e il giornale. Quanto gli ha chiesto? Posso solo dare queste due notizie. No, io non ho bisogno di soldi, ho bisogno di riparazione nero su bianco. Di soldi sono povero, quindi chi è povero che ci fa? Ha dato Berlusconi, ha detto pure che è più bello di Casini ieri, tra le altre cose, che lui è più bello di Casini. Cioè... Beh, io l'ho visto anche, secondo me, anche più alto e magro di Fini e Casini. Sì, sì, sì. Anche più giovane. Più giovane. Con più capelli. Più sì, giovane. Però mi dica la verità: in Lombardia, se vince il In realtà, le dico la verità: uno dei motivi che ha spinto Berlusconi alla rottura con Casini e Fini sono i 20 anni in più e i 20 centimetri in meno. Cioè? È un motivo oggettivo. Cioè, si sente... Psicologicamente lo ha sempre sofferto. Può essere. Però torniamo sulla cosa di Cosentino là, quelli che vanno insieme. Perché si vuole allontanare da quelle zone dove vanno? Cioè, le diamo la mappa dopo dei incontri. Sono candidato nello stesso posto, perché sono candidato in tutta la però Campania. Meglio non andare, Campania 1, meglio non frequentare le persone che frequentano loro. Diciamo, siamo diversi, frequentiamo ambienti diversi. Appunto, ma che tipo di ambienti sono quelli là? Che ambienti frequenta Cosentino? No, io frequento... Noi? Frequento voi. No, beh, dai, scusi... No, io non devo giudicare io, i tribunali giudicano. Ho capito, però lei parla di ambienti, è meglio stare lontano da quei posti. No, io ho fatto una battaglia diversa, la mia battaglia non è stata giudiziaria. Contro Cosentino ho fatto una battaglia interna al PDL di opportunità politica. Cioè, secondo me, chi ha giudizio per reati di collusione con la Camorra non può stare in Parlamento e non può essere candidato in un partito serio. Punto. Il mio è un problema di opportunità politica. Poi io mi auguro che tutti coloro che sono accusati dimostrino la loro innocenza dinanzi al magistrato. Mi dica una cosa: deputati e senatori di FLI mai in un governo col Partito Democratico? Deputati e senatori di FLI mai in un governo che non faccia gli interessi dell'Italia. Vabbè, ho capito, questo è scontato. Che vuol dire? È pronto anche ad un'alleanza con Bersani? Con Vendola ci andrebbe in un governo con Vendola. Io mentre parliamo stiamo al governo col PD. Cruciani, mai con Vendola. Ma no, Bersani intendevo Vendola. Cruciani mi consenta. Intendevo Vendola, non Cruciani mi consenta, se no mi alzo e me ne vado. Ho capito. Cruciani mi consenta. Intendevo con Vendola. Cruciani mi consenta. Mentre parliamo io sto al governo con Bersani. D'accordo. E sto al governo con Angelino e ci starebbe tranquillamente e ci starei con tutti e due anche la prossima legislatura. Cioè sarebbe il governo migliore. Mai al governo con Vendola, perché sono proprio ideologicamente e culturalmente uno che dice i ricchi vadano all'inferno, senza sapere che i ricchi si dividono in due categorie: quelle che producono PIL, quelli che producono occupazione, che pagano le tasse e ci permettono di costruire gli ospedali e le scuole con le loro tasse, e quelli che rubano e evadono. Quelli che rubano e evadono vadano in galera, gli altri però, andiamo scusi, a casa loro e ringraziamo. Un governo in cui c'è il Partito Democratico e voi senza Vendola, tranquillamente lasci perdere Berlusconi, non ci interessa Berlusconi in questo. No, anche Angelino Alfano, anche la parte moderata. Ma non è possibile, non è, cioè, parte, è difficile. La parte non è moderata. Lo stall, in uno stallo al Senato si prevede che Monti potrebbe, potrebbe insomma, aiutare, ti chiamo così. No, allora, dalle urne deve uscire un signore che vince l'elezione e che governa. Se non esce, bisogna cercare delle convergenze. Spetta chi arriva primo dire che tipo di convergenza vuole trovare. Vabbè. Quindi spetta a Bersani. Se Bersani ci offre una convergenza con Vendola, il mio voto se lo scorda, ammesso che io sia candidato. Sì, no, lei è candidato e sarà sicuramente eletto. Quindi, alla Camera. Però, se, però io m'ammazzo. Se invece perché ha paura che vengo a prendere il posto suo. No, beh, anche questo. Ci mancano le notizie. Se invece, ci vuole imporre Vendola, non se ne va. Un po' Monti va fregato. Se vuole molare se vuole mandare Vendola, benvenuto, tranquillo. Noi abbiamo fatto un questo lo pensa anche noi Monti questa fatto, cosa? Noi abbiamo... Lo pensa anche Monti questa cosa? Non lo so, lo chiedo a Monti. Noi abbiamo fatto un grande servizio a Monti, Monti ha fatto un grande servizio a noi. Noi abbiamo aperto la strada perché abbiamo rotto un sistema che non funzionava e abbiamo permesso che, Monti vi dovrebbe che il Presidente della Repubblica chiamasse Monti a servire cioè, dunque, il Paese. Monti vi deve ringraziare. In un momento così vi deve un po' difficile. Ringraziare o no? Eh beh, sì. Noi abbiamo fatto una cosa utile per l'esperienza Monti e Monti sta facendo una cosa utilissima per il nostro percorso nel momento in cui ha dato la disponibilità a candidarsi con un sacrificio. Se lui stava a casa poteva andare in carrozza al Quirinale, invece ha scelto di essere combattente dell'interesse comunque, del paese e quindi chapeau a Monti. Tutti scrivono e dicono che è un paradosso, ma a voi serve, a voi, cioè che volete essere decisivi, volete un po' azzoppare Bersani, diciamo la verità, questo è vero, volete azzoppare ridimensionare Bersani. Ridimensionare Bersani, sì. Noi vogliamo evitare che Bersani sia autonomo insieme con Vendola. Oh, esatto. Questo è l'obiettivo. Evitare che vinca il Senato, perché alla Camera... E quindi vogliamo evitare che si torni al guaio che passammo, anziché Prodi e Bertinotti, ci troviamo Bersani e Vendola. Bersani e Vendola. E quindi alla fine l'Italia è paralizzata, benissimo. Non si governa, lo spread va a 570 e poi sono guai. Allora, per evitare però questo... lo spread, quel premio Nobel, dobbiamo farcelo spiegare meglio. Lo so, come appunto, si chiama? Più premi Nobel, me l'hanno spiegato diversi premi Nobel. Allora, la cosa che devo capire è questa. Per arrivare all'obiettivo che lei dice, però, mi dica. Bisogna che il Berlusconi vinca in qualche regione. Per forza. Tra cui la Lombardia. Dunque voi dovete fare il tifo importante. Perché Berlusconi vinca magari in Campania. Noi facciamo il tifo per voi, vincere d'accordo. Noi. Poi se Berlusconi vince in qualche regione... Meglio. Problema suo. Però meglio. Problema meglio suo. Per voi. Meglio perché azzoppa perché il PD. Perché toglie voti a Bersani. Ma il problema nostro non è quanti voti prende Berlusconi o Bersani. Il problema nostro è quanti voti prendiamo campare, noi. Campare. Appunto, ma siccome... Però diciamola chiaramente, Bocchino, siccome voi sapete che non sarete voi a vincere... Come, cioè, però, ma guardi, sapete già che Monti sa come potrà... le rispondo? Lei sa bene che saremo comunque noi a vincere. Beh, sarete comunque determinanti, questo certo. Vabbè, grazie. Fini, lo vedremo un po' pubblicità. Fare un po' di campagna elettorale. Sì, perché non lo invitiamo qua? Ma ce lo porto però insieme. Cioè, sì. Perché da solo Fini alla Zanzara. Da solo è troppo cattivo con voi. Devo venire a temperarlo. Ci faccia questa promessa. Porterò va Fini bene, alla Zanzara. Ok, affare fatto, insieme. Sicuro. Ma giura sui ma suoi però figli? Però lo introduco io. Giuri no, sui io, suoi figli? Io a differenza di Berlusconi non giuro sui figli, perché, allora... perché i figli sono una cosa seria. Cioè, figli. Allora, non, però, non scherziamo. Prenda poi io questo figlie impegno. Femmine, prenda questo impegno. Sono cose porterò Fini alla Zanzara. Lo dica lei così lo mettiamo come spot poi intanto. Cominciamo a mandare. Lo dica lei. Porterò sarebbe opportuno che Fini si incontrasse con voi alla Zanzara. Io ce l'ho, lui ce l'ha molto con me soprattutto, non capisco perché poi non beh, mai parlato hai male hai detto tante di quelle cazzate beh, su di lui su quella roba cazzate. Hai fatto una campagna sulla casa di Monte Carlo su delle stronzate ma mi sono divertito solo con io l'ho difeso sulla casa di Monte Carlo ma ci siamo divertiti solo come Matti pure tu ti sei divertito con Patti no ma io ho detto che aveva perfettamente ragione fin ma quando mai sempre ascoltati l'audio vabbè grazie sui Balcani 800 24 00 24. Andrea, provincia di Torino. Buonasera Andrea. Buonasera a tutti. Sì, vada Andrea, vada. Vado al sodo. Allora, mi dovete spiegare, voi che siete molto molto bravi, intelligenti, stupendi, quello che volete, come mai ci hanno rotto le palle, scusate la termine rotto, 2 o 3 mesi, 4 anni, 5 anni sulla Minetti in consiglio regionale lombardo che veniva dallo spettacolo, adesso qualcuno molto sobrio mette un'altra Minetti che comunque viene da un'elezione di Miss Italia che è arrivata settima ottava, ha vinto Sanremo, poi ha un problema fisico, ma questo non c'entra, viene anche lei dal mondo dello spettacolo. Scusi, allora perché se non c'entra, ma che c'entra? Annalisa Minetti vuole paragonare Annalisa Minetti a Nicole Minetti. Io non do nessun giudizio, è una cosa un po' diversa, mi sembra, no? La cosa nasce in maniera un po' diversa da come nacque quella vicenda della Minetti. E poi che c'entra che è un problema fisico? Mi scusi, perché? No, appunto, dice... per quello non c'è, il problema fisico non c'entra. Ma allora perché lo cita se non c'entra? È stata crocifissa subito perché non si sapeva niente, e poi la Minetti non si sa niente di quello che fa a casa sua. Quindi parliamo di persone venute dal mondo dello spettacolo. E allora? Allora no, che differenza c'è? Lei dice siccome viene il mondo siccome, dello spettacolo, siccome che prendeva dal mondo dello spettacolo, dove l'hanno presa? Dal mondo dello spettacolo. Ho capito, lei dice la differenza non c'è perché anche Annalisa Minetti, che è stata candidata oggi da Monti, ricordiamolo, Annalisa Minetti, cantante eccetera eccetera, è stata, viene dal mondo dello spettacolo, e dice non cambia, come dire, il metodo, no? Giusto? Tutto, appunto, non cambia il metodo, tutto lì quello che dico, ma non mi cambia, per me la mia visione, diciamo persona, ok, ho capito perfettamente. Andrea non si incazzi un attimo solo. Allora, ho capito quello che lei vuole dire. Lei dice Monti non c'è bisogno che prenda dal mondo dello spettacolo, ha candidato anche la Vezzali dal mondo dello sport eccetera. Beh, anche secondo me, diciamo, ci sono alcune scelte che sono fatte per prendere più voti possibile. Insomma, d'altra parte, non è che si può pretendere che Monti arrivi e faccia, come dire, no, cioè quello che candida solo professori di economia. No, non può essere così, le elezioni sono le elezioni. Però la notazione dell'ascoltatore non è sbagliata, no? Uno si Sandro da Roma, certo. Queste scelte da altri. Sandro da Roma. Intanto, caro Parenzo, ci saranno molti omosessuali in lista. Sì, ho visto. In lista questa. Addirittura due con la lista Monti, sì, che si dice appoggiata molto, in realtà non è così, dalle alte gerarchie cattoliche. Il direttore di Gay TV, il signor Alessio De Giorgio, un renziano come Giuliano Gasparotti, che è di un'associazione molto conosciuta sul territorio in Toscana. Sì, chissà come mai. Capito? Questa scelta. Vabbè, Sandro da Roma. Sì, buonasera dottor Cruciani, a tutti. Vada. Allora, volevo dire, tanto condivido quello che ha detto il signor Andrea in pieno, tanto cioè cambiano le persone, ma i metodi questa prima. Poi volevo dire, il governo Berlusconi è stato dato a casa in maniera forzata, come tutti sappiamo, da tutte le parti, da quello fuori e da tutte le parti, per far posto al governo tecnico, e quindi qui sta pure bene. Allora? Ma il governo tecnico poi alla fine... guardiamo che adesso a selezioni si stanno quasi tutti ricandidando, o perlomeno stanno tutti quanti professando come alcuni esponenti del governo tecnico che stanno candidando. Qual è il problema? Qual è il problema? Scusi, in nessun paese al mondo comunque si sarebbe permesso che dei tecnici che hanno dichiarato al primo giorno che si sono insediati che sarebbero stati dei tecnici non di parte, invece a mio avviso hanno utilizzato tutto questo tempo per mettersi in mostra. Tutto qua. Poi volevo dire una cosa. Sì. Al signor Bocchino che stava lì presente, sì, con voi. Cosa voleva dire? No, volevo dire semplicemente che una delle qualità migliori che l'uomo dovrebbe avere è la riconoscenza e la fedeltà. E lui forse si scorda che Fini, insieme a lui, perché all'epoca era il suo portaborsa, è stato sdoganato da Berlusconi. Bene, se non ma problema è argomento vecchio. È regiologico. Argomento vecchio. È stato sdoganato da Berlusconi. Ho capito, ma ho capito perfettamente. Oggi erano dei perfetti sconosciuti. Va bene, noi. Grazie. Francesco da Novara. Una roba che appartiene noia al periodo mesozoico. Sarò rapidissimo. Io non è che ci abbia niente di personale con Parenzo, sì, ma sai cosa mi fa incazzare? Cioè, come tutte quelle persone che salgono in cattedra, parla essendo anche giovane, non avendo un background notevole, che non ha detto, come ma, si è arrivato. Ma cosa ha detto? Cosa ha detto che l'ha sconvolta? Non è che mi sconvolge, credo, io sono uno molto disincantato. Non mi piacciono le persone che fanno i grilli parlanti, quello è cretino, quello è scemo, Berlusconi qua. Ha delle certezze che non c'ha nessuno. Lui c'ha ma non sono certezze. Di certezze, senza dire che in questo momento sta facendo il verso al PD. Ma qui si esprimono, ma quale PD? Ma quale PD? Qui si esprimono opinioni. Francesco, che parano addosso in questo modo. Io preferisco lei perché lei. Ma stia tranquillo, lo sparo adesso, sparo addosso. Di anni di esperienza, ma da dove cazzo arriva suo Parenzo? Chi ha messo? Francesco, stia tranquillo. Questo è quello che vorrei sapere. Poi per il resto, sì, lo capisco, quello di fare audience, ma io voglio capire anche che uno deve avere le palle, deve avere un background prima di andare a sparare addosso a destra e a sinistra, senza sempre interlocutori. Allora, come siete loro? Ma io glielo dico in faccia. Ma io le cose che dico qua, gliele dico in faccia agli ospiti. Ma cosa dici in faccia lì dietro? Lei deve anche sostenere, perché lei fa il pubblico accusatore, lei sta facendo il verso ai giustizialisti. Ma quale pubblico accusatore? Il grigio non esiste. Io Va bene, Francesco, grazie. Silvio da Torino. Silvio da Torino, buonasera. Il grigio non esiste. Silvio. Silvio. Dario da Napoli. Buonasera, Cruciani. Vada. Mi sente? Sì. Sente, Cruciani, noi abbiamo un problema in Italia che non si parla mai. E qual è il problema, Dario? Ecco, il modo te lo spiego subito. Sì. È che siamo invasi da tutti questi personaggi che non siamo italiani, invasi, scusi. Rumeni, marocchini, indiani. Mandatemi in ambulanza subito, dai. Prego. Dove si trova, Dario? Allora, io mi trovo a Verona. Allora, bravo. Questa gente stanno occupando, in che zona? Che manda questa ambulanza, non serve un cazzo. Tutta questa gente stanno occupando i posti dell'italiano con quattro soldi. In che zona, in che zona si trova? Si calmi un attimo intanto. In che zona si trova? Senti, senta, Crucia, se io voglio parlare con lei perché lei è serio, ha messo... No, ma lei sta dicendo una, sta dicendo una boiata. Sì, però si calmi. Ti dico la cosa come sta. Sì, ma lei deve stare calmo, tranquillo. Si calmi perché adesso... Allora, io sono calmo, però quando vedo che i miei colleghi non riescono a portare a casa un piatto di pasta. Sì, adesso arrivano, adesso arrivano due signori. Di rumeni, sì, i rumeni, certo. I rumeni, certo. Ma certo, arrivano i rumeni. Lo dica alle persone vestite di bianco che stanno arrivando. Nicolò da Modena, 800240024, questa è la Zanzara. Giannino, fatemi ascoltare Giannino ogni tanto. Basta! Basta! Basta! Beh, mi sembra una parola che chiarisce tutto. Cioè, questa definitivo. Parola qui, siccome sintetizza tutto. E tanto una notizia, eh? Nicolò, che c'è? Fonti molto attendibili mi scrivono che per salire sulla sua macchina e sì. Sta per andare negli studi televisivi di Cinecittà per affrontare... Beh, era previsto, insomma. La notizia importante delle Nicolò, 20:01. Sì, pronto, buonasera. Sta per arrivare agli studi. Niente, volevo solo fare presente che oltre a fare informazione su partito di destra, partito di sinistra, partito di centro, votate di qui, votate di là, c'è una legge che adesso stanno girando messaggi qui nella mia zona di Modena da sì. Parte di Barbi che dice che ci si può avvalere di non votare mettendolo per iscritto e certificato. Molti non sanno questa cosa. Che cos'è che bisogna mettere scritto certificato? Che uno si astiene dal votare, sì. Ma non è che... Un attimo solo, Nicolò. Pronto? Sì, signor Borgomeo? Sì, sono io, buonasera. Buonasera, sono Cruciani dalla Zanzara. Parenzo, buonasera. Della? La Zanzara, Radio 24. Buonasera. Ah, sì, buonasera, buonasera. Come sta, signor Borgomeo? Bene, bene. Lei è ancora presidente dell'Associazione dei Telespettatori Cattolici? Sì. Ah, l'AIART, no? Ah, quindi... Come si chiama, scusi? AIART. Quindi è lei che ha fatto questa fatua nei confronti di Guzzanti? No, non è una fatua. Una fatua, sì, nei paesi islamici si direbbe fatua, appunto, nelle sì, teocrazie. Appunto, non è una fatua e soprattutto non è nei confronti di Guzzanti, io ho precisato con chiarezza perché... Ma come non è nei confronti di Guzzanti? Sei arrabbiato per questa gheghina straordinaria su Don Pizzarro? No, noi abbiamo... perché ognuno deve svolgere il ruolo che ha. Noi come associazione di telespettatori non abbiamo il titolo per giudicare una trasmissione. Beh, noi, come? Avete... Noi critichiamo la 7 che ha mandato in onda. Beh, uguale, insomma, dai, su. Non c'è molta differenza. L'avete denunciato, no, cioè, avete detto che volete denunciare addirittura... Come certamente. Volete denunciare la 7 perché mandano in onda uno straordinario comico come Guzzanti che fa l'imitazione di un personaggio inventato qual è questo Don Pizzarro? Ma come esatto? Ma come esatto? Mi manda in onda. Scusi, però, signor Borgomeo, io voglio capire una cosa. A voi addirittura chiedete di cancellare il programma. Un attimo, lei mi sta facendo un'intervista oppure vuole esprimere il suo punto di vista? No, un'intervista, no, ma ragionando certo. Con lei. Adesso la facciamo parlare, naturalmente. Io vorrei capire una cosa. Voi avete minacciato di denunciare la 7 se la 7 non cancella il programma. Abbiamo annunciato. Vabbè, ho capito, la parola minaccia non è nel nostro vocabolario. Vabbè, minacciare non in senso non con la pistola. Esatto. Abbiamo annunciato. Gli avvocati stanno studiando. Ma quante firme avete raccolto? ma noi non dobbiamo, come dire, raccogliere le firme. Noi abbiamo la necessità di far rispettare la legge. Cioè, scusi, ma che legge? Qual è bloccare la, legge la messa caso? In onda di Guzzanti, questo è l'obiettivo però. La legge che tutela il cittadino che ha diritto ad essere rispettato nel suo sentimento religioso. E qual è questo? È un fondamento costituzionale e anche un fondamento nel codice penale. Però scusi, signor Borgomeo, qui è, la, è satira. Satira, non c'è nessun vilipendio della religione, è satira, c'è un prete che... No, guardi, io perciò all'inizio della sua telefonata cortesemente le ho chiesto con molto garbo se lei vuole fare con me un dibattito oppure mi vuole fare un'intervista. Ma adesso, perché lei ha il titolo a dire non condivido quello che dice. Ma non ha possibilità assolutamente di fare un dibattito. Io posso fare, a parte che come io, se lei è d'accordo, posso fare quello che voglio, nel senso, se posso interloquire con lei nel modo in cui credo opportuno. Però io posso, a queste condizioni, dire che egregio signore, la ringrazio. No, voi, certo, però no, io non mi sembra di essere stato sgarbato. Allora, chiariamo la posizione. Lo suo obiettivo è quello, che quella satira non su Don Bizzar non vada in onda. Questo è l'obiettivo, giusto? Noi riteniamo che quel programma che la 7 ha mandato in onda lede il diritto del cittadino. Lede il diritto del cittadino? Cioè un diritto costituzionale. E quale sarebbe il diritto del cittadino che viene leso, che viene colpito? Scusi, signor Borgomeo. Esatto, perché il cittadino ha diritto alla sua identità culturale e religiosa. Cioè i cattolici si sentono offesi. Noi cattolici, no, guardi. Non ma io sono cittadino, non mi sento offeso per niente, muoio dalle risate quando sento quella roba lì, quando vedo quella roba lì. Scusi, non sono cittadino pure io? Sì, certamente, ma io non difendo i cattolici, io difendo il cittadino che ha una sua confessione religiosa. E cambierà canale. Ah, appunto, il cittadino che crede, il credente. Certo. Il credente cambierà canale, il credente. Beh, uno che non gli piace cambia canale, perché la nostra Costituzione che è molto avanzata a differenza di come dicono tanti, ha già nel 48 parificato la religione ai fini le confessioni delle d'accordo proprio, ma questo siamo d'accordo tutti che vengono parificate eccetera. Qui è satira in un programma televisivo, nessuna bestemmia, niente. Non c'è un predicatore che viene mandato in onda a sparare a zero contro la chiesa cattolica o contro la religione eccetera, è la satira di Guzzanti. Perché non vi piace la satira? Ecco, è perché la satira, che è certamente un modo di fare spettacolo anche interessante, interessante, gradevole, grazie. La satira non può essere fatta, direbbero i giuristi, legibus solutis, fuori dal rispetto delle leggi. Questo ho capito, ma in questo caso qual è la legge violata? Solo a voi è venuta in mente sta roba, infatti. No, è vero. Ma poi scusi, perché esistono i telespettatori cattolici? Come no? E quindi ma esiste anche secondo me buddisti? Esistono i telespettatori to cour, noi i telespettatori cattolici, è una categoria piuttosto. Ma noi organizziamo dal 1954, non io perché a quell'ora non c'ero. Organizziamo i lavoratori, i telespettatori che hanno un orientamento cattolico. Ma è una follia, è una cosa folle. Cosa vuol dire organizziamo? Che significa organizziamo i telespettatori cattolici? Scusi, una cultura presente in tutta Italia. Ho capito benissimo, ma non è che esistono in quanto tali i telespettatori, esistono i telespettatori, non i telespettatori cattolici. I telespettatori cattolici e noi li organizziamo perché riteniamo che i media hanno una influenza notevolissima. Ma organizzazione per fare cosa? Scusi un attimo, Borgomeo, adesso io le voglio fare riascoltare questa che cosa. Punti io sento la voce sua e altre voci di no, Parenzo, sono Parenzo. Salve Borgonovo. Borgomeo, lei considera Guzzanti uno che ha offeso la religione? Come lo considero? Un pazzo, un criminale? Come lo no, guardi, non è. Queste categorie non fanno parte del mio lessico. E che ne so, come lo considera? Un miscredente? Come lo considera? Considero una persona che nel fare satira è andata al di là delle leggi. Delle leggi. Cioè, uno che ha commesso un reato. Lei dice ha commesso un reato. Certamente. Ma io non sono in condizione. Io non sono in condizione di giudicare. Io ritengo che ci sia questa vulnus, che ci sia questa. Ma quanti lezione. Sono gli iscritti? E mi rivolgo al magistrato. Che si rivolge al magistrato. Costituzione deciderà. No, si rivolge al magistrato se ha ragione o non ha ragione. E dice anche la 7 deve sospendere il programma. Certamente. Ma come certamente? Però scusate, i punti della patente. Io trovo straordinaria questa cosa delle punti della patente. Borgomeo, ascolti io con lo trovo, a lei non so che effetto le fa risentirla. Sentiamo un attimo. Pure a Coscio, a Giuliano Ferrara, che ci sarà tanto appassionato. Gli avevo detto, ma per far contento lui, Giulia, facciamo una cosa più piccola. A ste ragazze che abortiscono gli levamo i punti della patente. I punti della patente a chi abortisce? Beh, se porti avanti la gravidanza, non porti avanti manco la macchina. Sei un'assassina delinquente, visto mai mi viene addosso. Parlino che stava bene a Giuliano, non ho mai capito che voleva fare. L'odio si sente. Borgomeo, su, è fa questa ridere. Qua, fa ridere, su. Sì, ma io non contesto che alcune battute siano anche simpatiche. Posso dire che anche quelle che sono blasfeme hanno un tasso di ironia che possono far sorridere. Ma qui è una... Ma il punto non è questo. E qual è il punto? Punto non è questo. Ma quante persone hanno protestato? Quante telefonate, lettere vi sono arrivate per questa roba qui? Ah, io che non avevo visto il programma, sono stato tempestato. La sera e anche nella mattinata con le mail e telefonate. Da almeno centinaia di telefonate. Centinaia. Ma centinaia. Sono, è poca roba. Vabbè, comunque. Ma si rende conto che se dovesse passare questo principio qui, è come quelli che si sono arrabbiati per le vignette su Maometto. Esatto. No. Beh, come no. Sì. Ma io devo dirle la verità che anche ho giudicato negativamente l'iniziativa di Calderoli di fare la maglietta. Vabbè, ma perché anche quella è una violazione del diritto del cittadino italiano islamico Borgomeo, musulmano. Borgomeo, che... quella era una cosa politica fatta da un politico. Questa qua è un finto prete. Calderoli ha offeso. Ho capito, ma Calderoli fa il politico, non è Guzzanti. Guzzanti fa il comico. Eh sì. Ma fai il comico, esiste la comicità anche violenta, anche... Ma non esiste, però guardi, dottore, non esiste una comicità fuori dalle regole. La cosa interessante è che se dipendesse da lui, non vedrei... I radioascoltatori della Zanzara devono sapere che se dipendesse dal signor Borgomastro, come si chiama? Borgomeo. Nessuno in Italia potrebbe vedere sulla 7 quella straordinaria. Se dipendesse da lei, non si potrebbe vedere. Questo certamente la gente deve saperlo. Grazie. Borgomeo, grazie per la sua libertà, grazie per essere molto liberale. È un po' scorretto. No, assolutamente, perché? Beh, così. È un po' scorretto perché dice una cosa che io non ho detto. Beh, se dipendesse da lei, ma come? E in più sta facendo una intervista con delle affermazioni che non hanno fondamento. Io sto dicendo che non è Borgomeo che dice che non deve. Vabbè, Borgomeo sarà il giudice in base alla legge. Ma lo dice lei. Se dipendesse da lei, ma lasci stare il giudice. Ma se dipendesse da lei, quella roba lì non andrebbe mai dica in onda. Dica una cosa: viva Guzzanti, lo dica. Borgomeo. Almeno questo lo dica. No, assolutamente non dico questo perché non mi presto a questi giochetti, eccetera. Io sto dicendo che... Viva il Papa! Io sto dicendo e ripeto che finché esiste un paese democratico con una sua costituzione... Guzzanti non deve andare in onda con la sua idea di democrazia, ma va benissimo, per carità, basta essere chiaro. Non è la mia idea, è un paese democratico che ha una costituzione e ha delle leggi. Vabbè. Poi possiamo cambiarli. Ma quanti sono gli telespettatori? Io questo ancora non ho capito, però con rispetto lo chiedo. Quanti sono i telespettatori cattolici, ad esempio? Quanti sono? Iscritti. Quelli aderenti, io posso, potrei quelli aderenti alla sua associazione. Sì, quanti ma sono? Credo che la stragrande maggioranza. No, ma quelli aderenti, quelli che hanno la tessera, associazione telespettatori. Ci sarà sicuro la tessera, no? Vabbè, c'è un sistema di adesione anche. Ma quanti sono i telespettatori cattolici? Eccetera. Sono 47.000. Benissimo. Arrivederci, ci risaluti, buona serata, tutti, eh? Molto gentile, grazie. Saluti. Basta! Zanza. Zanzare. Berlusconi sta arrivando negli studi di servizio pubblico, questa è la notizia. Hai un'ossessione tu per questa notizia. Hai un'ossessione per questa roba qui, un'ossessione. Sta arrivando negli studi di Cinecittà. Ad accoglierlo sulla porta ci sono Vauro e Ruottolo con le cuffie in testa. Ma non è vero. Sì, cronaca che mi arriva dagli amici che lavorano lì. Sta arrivando in questi momenti. Ma perché stanno con le cuffie in testa? Ruottolo con le cuffie lì fuori. Sandro! Abbiamo in esclusiva il direttore del giornale. Beh, Alessandro Sallusti ci spiegherà, ci illustrerà la prima pagina di domani. Buonasera Sallusti. Buonasera. Qual è la prima pagina? Vi ha colpito molto a voi del giornale questa notizia che Monti candida due gay, no? Abbiamo notizie importanti per domani. L'apertura sarà con Monti solo froci di merda, che aggiungiamo come occhiello. Froci di merda. Ma sono due. Due di troppo, candidati. Ma il titolo qual è? Il titolo abbiamo fatto con Daniela Santacchè poco fa. Non voglio tu e i coglioni che mi fate voi. Con Monti solo froci e poi una spalla in cui raccontiamo invece la grande rimonta ai Berlusconi. Berlusconi e Monti. L'unica ipotesi di titolo è questa. Con Monti solo froci oppure Milano, Rom e Pisapia. Ma che c'entra Milano-Roma? Non è successo niente. Sono tutti chiarissimi da quando governa Pisapia. Solo Foci e Roma. Sugli omosessuali è solo questo, su questo. Oppure un'altra alternativa di titolo potrebbe essere, giocando, no, sul nome della lista, con Monti i Foci. Ah, Monti i Foci è il nome della lista del signor Monti. Bene, grazie per queste anticipazioni del giornale. Andiamo a Silvio da Torino, se c'è. Silvio. Sì, pronto. Salve. Sveglia. Sì, ci sono. Sveglia. Mi sente? Sì. Sì, sì. Niente, io ho sentito l'altro giorno il sindaco De Luca che criticava sia Di Pietro. Beh, devo dire che è eccezionale la battuta che ci ha fatto De Luca l'altro giorno, il sindaco di Salerno. Ha detto, alla fine, nella lista nuova, Ingroia, De Magistris e Di Pietro si indagheranno tra di loro, finiranno per indagarsi tra di loro. Eccezionale, ho trovato una battuta eccezionale. Sì, sì, vabbè, allora sì, Silvio, dica. Poi parlava anche di meritocrazia. Vabbè, allora... appunto, da De Luca, e poi anche stasera ho sentito lei che in qualche modo da quando c'è la lista Ingroia sento sempre anche lei che fa delle piccole battutine, no? Che Ingroia non ha contenuti. Ma non ho detto questo, ho detto che ho trovato, insomma, non è più magistrato, no? Non è più magistrato, e temporaneamente non è più magistrato. Ha detto che non tornerà mai più a Palermo, l'ha detto oggi. Vabbè, non si è dimesso dalla magistratura come ha fatto invece Grasso, che però era vicino alla pensione. Ha detto, siamo stati spiati e pedinati da un'agenzia. È una sensazione condivisa anche con altri colleghi a me vicini. C'è chi sta indagando, qualcosa di torbido si è mosso contro di noi. Ora, siccome trattasi di un magistrato che ha fatto indagini sulla trattativa Stato-mafia e parlava a proposito della trattativa Stato-mafia, non si capisce più se Ingroia parla in quanto magistrato sulla trattativa Stato-mafia, magistrato oppure come politico. Per cui uno può dire, siamo stati spiati e pedinati da un'agenzia. Chi? Quelli della lista Ingroia o i magistrati della trattativa Stato-mafia? Evidentemente i magistrati della trattativa Stato-mafia. Cioè fa campagna elettorale, tra virgolette, ma forse è legittimo secondo voi, fa campagna elettorale sulla trattativa Stato-mafia. Allora, sì, ma non solo su questo, non solo, sì, su, non questo, solo su questo, certo. Cioè, sia Ingroia che Di Pietro, sì, che stanno facendo campagna elettorale da anni, soprattutto Di Pietro, cioè, si parla comunque di far fronte ai problemi del paese, agli esodati, ai pensionati, al conflitto di interessi, non è soltanto la questione che dice lei, ha capito? Per cui trovo un po' ingiusto le critiche che rivolgete contro Di Pietro. No, Di Pietro non abbiamo detto nulla, io ho detto di Ingroia di quei calibro, perché ce ne fossero tanti come loro in questo paese qua. Guardi, sicuramente non ci sarebbe un Parlamento così sporco. Sull'economia io non ho ancora capito Di Pietro. Io sull'economia ancora non ho capito che nulla. Cosa ha fatto Di Pietro? Il cancro che c'era nel Parlamento, tutti gli intrecci mafia politica, eccetera eccetera, ce lo stiamo dimenticando chi era Di Pietro. Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino, ruggisce tutta la notte e dorme in un tombino. Andiamo, Sgarbi, ho provato a chiamare Giannino con Berlusconi ma non ha risposto. Che mi graffia tutto, cosa ti devo fare? Arriva. Ti farò quello arriva, che arriva. Mannino non rispondeva, Giannino non so dove sia, ma Giannino è con noi. Giannino mi ha detto se mi chiama, e non l'abbiamo chiamato, cioè, abbiamo tentato di chiamarlo, però è evidente che Giannino è un piccolo Monti, cioè è uno che pensa di prendere i voti di Berlusconi senza Berlusconi. Come uno che pretendesse di prendere, non so, il pranzo ad Arcore andando nella rosticceria, nella pizzeria del paese. Devi andare a Villa San Martino se le vuoi prendere. È evidente, basta! No? Basta! Basta! Poi parla male di Marchionne, non ho capito perché si chiama. IMU, spread, l'industria, Marchionne, nel culo Marchionne. Uno che dice una piccola e povera città Firenze, anche se è una persona intelligente per i suoi cazzi di macchine, va cacciato a pedate in Germania. Non possiamo avere uno che dice di Firenze che è una piccola e povera città perché la misura sui dati demografici. Beh, su questo ha ragione, al netto ho risolto, diciamo, il caso di Avetrana dopo 8 giorni. Chi l'ha detto questo? Ti giuro, Sgarbi. Il caso di Avetrana? Senti. Sono andato ieri all'ennesima trasmissione, c'era la volta che si parlava sempre di quelli di Avetrana. Io per primo ho risolto il caso dicendo lui, pur di non stare con quelle due, va in galera. È sicuro che ha trovato la liberazione, sono io, l'ho ucciso io, l'ho strangolata, l'ho violentata dopo morta, l'ho presa in tutti i modi come se fosse segno, ho fatto qualunque cosa, tutto fatto, tutte balle. non era mai, era una persona normale. Ma perché parla di avere era squilibrato dalla moglie e dalla figlia. Quando ho trovato la via d'uscita, io l'ho risolto, diciamo, dopo 8 giorni. Per altri 8 mesi mi hanno tormentato i coglioni sul caso Avetrana. Che era una cosa insopportabile, andavo sempre lì, tu cosa pensi? L'ho già detto cosa penso, non me ne frega un cazzo di quei tre, non me ne importa assolutamente, no, ma è lei, dai, cosa... Stessa cosa vale per lo spread e per l'IMU. Io arrivo a una trasmissione, ma come la stessa? Da Vetrana a l'IMU. Parlano dello spread, dico, ma perché non parliamo mai di Botticelli? Completamente impazzito. Vai avanti tu, che io rimango. Chi è? Chi è? Ah, Vittorio. Chissà dov'è. Professore? Le professeur. Sarà in macchina da qualche parte, spostandosi da parte all'altra. Sarà con quelli di Intesa Popolare, sì, con Catone. Intesa Popolare. Perché si è messo con Catone adesso? Chiamiamo Catone invece. Quello della discussione. Signor no. Catone. No, la discussione non esiste più, lo sai o no? Mi hanno detto che ha chiuso la discussione. Ma no, ma non è vero. Tutti i soldi pubblici che basta! Hanno... Basta! Ogni tanto c'è questo Giannino che si inserisce. Pizzarro, Don Pizzarro, dai, Don Pizzarro. Battaglia persa la 194, la legge sull'aborto. Straordinario Guzzanti, va. Che... Ma chi va a Duca sta 194? Magari, quella è una battaglia persa. Ma come? Ma amica mia, sull'aborto c'ho due cose. O lo vietiamo e ricominciano quelli clandestini, oppure lo lasciamo così. Ma che poi fa partorire una per forza? Che facciamo? Gli commissariamo il corpo? Gli mandiamo i carabinieri a casa? Non si può fare, magari, ma ce lo fanno fare, ce lo faranno mai fare. È una battaglia persa, accontentiamoci. Continuiamo a piazzare obiettori di coscienza dappertutto, che a quelli le fanno fare carriera, a quell'altro no, e va bene così. Don Pizzarro, qualche ma perché, personaggio secondo ce lo vorrebbe te, togliere. Perché ce fa lo vorrebbe così, togliere, ma perché fa così arrabbiare sta cosa? Perché attraverso l'ironia dice la verità, no, no Guzzanti? Cioè è ovvio che... Tu vai oltre, a me non me ne frega niente. La satira fa incazzare quando arriva al però, cuore. David, siccome è vero oltre. Che piazzano obiettori, l'idea sì, è questa. Però tu vai oltre queste sì, cose. Ma a me non me ne frega niente moltissimo, di dare ragione a quelli o a quegli altri. Fa così arrabbiare perché incide su un punto di verità. Il punto di verità è quello che la strategia oggi è quella che non potendo modificare la 194 piazzano obiettori dappertutto, per quello questo ma simpatico. Ma vai nel merito di questa cosa? Ma perché chi se ne frega? È questo, il ma l'importante è non è il merito, ma l'importante è il fatto che questa cosa deve vivere, punto. Che ne dica il signor Borgomeo. Il signor? Un tale ah, quello che sia che c'era Borgomeo, prima al telefono, che si fa come dire, interprete di tutti i telespettatori cattolici italiani, i quali magari si divertono come matti a vedere e a sentire Guzzanti e se ne fottono, non si offendono e se ne fottono di queste associazioni. Sentiamo sull'AIDS, sempre Pizzarro Guzzanti. Continuate a vietare l'uso del preservativo, sì. Cioè preferite che si muoia di AIDS piuttosto che permettere l'uso di un anticoncezionale. Sì. Che cos'è? Che una vita che deve ancora nascere vale di più di una che c'è già? Esatto. Guarda, a noi ci interessa proprio la vita, dal concepimento alla nascita. Già un quarto d'ora dopo non gliene frega più niente a nessuno. Prova a cercare un asilo nido, poi me lo racconti. Francesco da Bologna, buonasera. Buonasera. Vada, abbassi la radio, grazie. Sì, la sto abbassando perché sono in macchina, grazie. Dica. Senta, posso fare un piccolo ragionamento? Così sì. Ascolta anche il dottor Parenzo, il signor Parenzo, eccoci, non lo so. Sì, sì, eccoci. Allora, io sono un imprenditore di Bologna. Professore anche. E ho votato sì. Professore, chiamiamolo professore, il professore sì, Parenzo. Sì. Sì. Benissimo, grazie. Io sono un imprenditore e ho votato alle ultime elezioni Berlusconi. Sì, però mi deve permettere di fare questo ragionamento senza interrotto dal signor Parenzo. No, è tutto no, meraviglioso. No, ma dice ma bravo ironicamente, esatto. Io non ho risposto perché qual è il problema? No, se esatto. Gli piace così allora, va benissimo. Io ho votato un sacco di volte per Berlusconi, mica mi vergogno. Ma va benissimo, bravi. Giusto. Il ragionamento è questo. Bravi. Allora, io sono uno del 40% che ha votato Berlusconi. Bene. E logicamente ho avuto anche io le mie piccole delusioni, piccole grandi delusioni con certo. Il governo di Berlusconi. Normale. Giusto? Giusto. Dunque... Ho aspettato per un anno, due anni per vedere le altre compagini politiche che poi sì. In ogni caso sarebbero presentate a noi elettori sì, certo. E che sicuramente mi avrebbero dato molta più soddisfazione. Il risultato che... di questo anno di il risultato di questo anno è che lo abbiamo visto prima 10 minuti fa e sentito alla radio dall'onorevole Bocchino. Cioè se chi sostituirà Berlusconi deve essere una persona alla pari sì. Dell'onorevole Bocchino, allora sì. Dio che ci guardi. Il prossimo 4 anni Monti saranno, si è imbarcato... saranno un disastro totale per l'Italia. E dunque? E dunque dopo io, un anno lei rivota Berlusconi. No, e dunque io le dico che anche lei, dottore Cruciani, sì, ma molto chi vota, Francesco, chi vota oggi? Io guardi, alla luce di quello che sta succedendo, rivoterò Berlusconi, ma le dico perché? Perché ritengo che sia il minore dei tre mali. Ho capito, no, ma lei è molto lucido questa cosa. Guarda, però non bisogna sottovalutare questa cosa qui, perché tutti quanti guardi, dicono le posso Berlusconi dire, le posso è dire un che pazzo, voi state facendo delle valutazioni non è pazzo errate. Per niente, anzi. Su state che facendo cosa, delle valutazioni errate, perché lei deve considerare che una persona in Italia le persone votano anche col cuore. Le posso garantire che quel 40% che ha votato Berlusconi, nonostante abbia dato dimostrazione di tutto quello che sappiamo, forse incapacità, forse leggerezza, forse tutto quello che vogliamo, però stiamo attenti perché quelle persone lì non voteranno mai a sinistra. Ce lo ricordi, dottor Parenzo? Ma che a me non interessa che vi forse non ci siamo capiti. Ma a me non interessa chi vota PD, PDL, non avete vinto, perché io non ascolto neanche una telefonata, che parla di traverso a Berlusconi. No, questo non è vero. Questo non è vero. Avrete qualche piccola delusione. Ma non è che il sondaggio sono le telefonate della Zanzara, su Francesco, non è questo il punto. Mi scusi, dottor Cruciani, ma le posso dire una cosa? Sì. Ma lei lo sa che le cose che sta dicendo, anche se oggi non è credibile Berlusconi, le cose che sta dicendo, io lo dico da imprenditore, perché io so perfettamente cosa vuol dire. Ma le cose che sta dicendo quali? Perché sa, si contraddice pure da un giorno all'altro. No, le cose che sta dicendo, le sta dicendo tante, ma ne sta dicendo una. Ma su che cosa? Sull'economia? Sull'economia. Ne sta dicendo una molto importante. Cioè? Ed è vera. Ed è molto vera, perché se veramente non si trova una soluzione ad abbassare gli interessi sul debito pubblico, qui noi siamo tutti quanti, noi imprenditori, io stamattina ho dovuto pagare 50 persone. Scusi, però Francesco, a lei... Se continua così, io non riesco a pagarli le 50 persone. Scusi, però a lei non viene in mente il fatto che tutti questi problemi che ci sono adesso poteva risolvere Berlusconi prima, quando era al governo? Con un'ampia maggioranza. Oppure, come dice lui, non poteva perché c'erano gli alleati, la prima Fini e Casini, poi la Lega, poi le cavallette. E perché il Presidente del Consiglio non ha molti poteri, scusi. Cioè, non le viene in mente che poteva risolverli prima lui questi problemi e dunque non è la persona adatta a risolverli adesso? O no? Ma mi scusi, no, è una domanda, mi risponda. Siccome lei ha detto che voterà di nuovo Berlusconi, evidentemente ha ancora fiducia che li possa risolvere. Ma mi scusi, quando io ascolto tutte e tre candidati, tutte le sere... Vabbè, ho capito, è meno peggio a Berlusconi. La ricetta sul, dunque, a livello economico, sulla nella situazione economica... Il meglio è Berlusconi. Io credo che lui... Ma come no? Allora, le dico che non è credibile. Io sono il primo come lei che dico che non è credibile. E allora? Però la ricetta economica è perseguibile, è quella di Berlusconi. Stiamo attenti perché molto probabilmente, siccome le persone, oggi io ho guardato i miei 50 dipendenti, li ho guardati nel volto, questi sono terrorizzati che io non gli posso più pagare lo stipendio. Ma questo che c'è, non è che se c'è molto. Ma se noi continuiamo così, con questa ricetta del dottor Monti, professor Monti, io sicuramente porterò i libri in tribunale. Non ce la facciamo più. Cioè, lei pensa di salvarsi grazie a Berlusconi? No, non è che mi salvo perché mi illudo. C'è una piccola differenza. Ci sono più possibilità che la sua azienda si possa... Sta dicendo le cose giuste un uomo sbagliato. Ho capito, Francesco, grazie. Molto interessante però questa telefonata. Ma molto mica tanto, perché l'IRAP Berlusconi in tutte le volte che ha governato mica gliele ha tolte. Io ho detto che è interessante la telefonata, non sto contestando il merito. Può essere innamorato, ma non capisci il ragionamento. Ma uno può essere innamorato di qualunque... Se uno è innamorato, quando c'è l'amore, a me va benissimo. Dice, io sono innamorato di Berlusconi. Ma va benissimo. Ma non è questo Crede caso, ancora dai. Dal 94. Non pigliare per il culo dal 94. Ma quando c'è l'amore, va bene. Non dal devi 94. Sottovalutare il fatto che c'è un numero consistente di persone in Italia che nonostante i disagi continua a votare Berlusconi, ma non perché sia scema, perché evidentemente dall'altra parte ci sono quegli uomini che sono innamorati della stessa donna da 40 anni cosa, nonostante gli mettano 50.000 corna sulla testa. Pubblicità. È la zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, la zanzara dispettosa, fa zazza. È la zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, la zanzara dispettosa, fa zazza. Basta! È la zanzara capricciosa, la zanzara velenosa. Ma il top di Sgarbi di oggi è la presentazione, chi è? Ah sì. Il telefono che squilla? Sì. Ogni tanto squillano i telefoni all'improvviso, senza che nemmeno noi facciamo il numero. Sì, credibile. Non abbiamo bisogno nemmeno di fare il numero. Partono telefoni così. Sì, pronto? Sì, eccomi. Oh, cara De Feo! Senatrice De Feo, buonasera. Buonasera. Come sta? Come sta, cara? È Cruciani qui, dalla zanzara, come sta? Ah, la zanzara, no, Come io no? Non voglio punture, no, le punture... No, nessuna puntura, gli auguri di buon anno! Buon anno! Auguri anche a lei, anche a lei! Senta, come sta? Senta, come sta innanzitutto, come sta? Come sta? Bene, molto felice, Sì. Ho concluso la mia, sì, la mia storia politica stasera, sì, con un bellissimo convegno su Cavour. Cavour, che noia. Cavour. Sì. No, non è che noia. Noia era pazzesca. No, no, no, no, no, meraviglioso, divino, per carità. No. È stato divino perché c'era Dell'Arte che ci ha raccontato, ah, sì, le, come ha scritto il suo sul libro, certo. Ah, bello, no, Dell'Arte, bravo. C'era Piero Ottone che aveva una visione di Cavour del tutto originale. Bellissimo questo. C'era anche suo marito? C'era anche suo marito? C'era Emilio? No, mio marito no, mio marito non c'era, sì, c'era, c'ero io, ma c'era tanta gente, tanti amici, in una grande sala del Senato. Ma che bello, stupendo, bello. Ed è stato l'ultimo evento culturale che, con il centenario. Beh, però lei non ha, lei non ha finito alla, cioè, Senato, pare che sarà ricandidata al 100%, o no? No, no, no, no, non voglio, non voglio, grazie, ho lavorato molto, sono stata molto impegnata, sono stata anche soddisfatta di quello che ho fatto. Basta, e adesso non basta. Si ricandida, non si ricandida. Dico no, basta. No, no, no. Ma no, allora no, sono no, false le notizie che circolano, lei e suo marito candidati insieme per il PDL, no? No, no, no, grazie, sì, ma a me se me lo offrissero, avevo già scritto, sì, al presidente che non, sì, non intendevo essere ricandidata, e se anche me lo chiedessero dovrei rispondere che sono molto onorata, ma basta, ma basta, ma basta. E Emilio invece potrebbe prendere il suo posto. Ah, no, no, non lo so Emilio che cosa ma farà, ma potrebbe. Beh, non lo sa, è suo marito, è suo marito, scusi, se lo sa lei. Lo so, no, non lo so perché io sto a Roma, ah, al momento lì a Milano e non ci siamo, non, beh, ci esistono siamo i telefoni, così, esistono, sì, i telefoni. No, no, no, questi giorni sono stata molto occupata con questo, non l'ha mai sentito. Quanti giorni è che non sente Emilio, scusi, il direttore? No, non l'ho mai sentito, l'ho sentito, ma sempre di corsa, sempre corsa, di corsa, corsa. Ma potrebbe candidarsi, secondo lei è opportuno che si candidi oppure è sbagliato? Ma io non lo so, tanti anni di giornalismo, può essere che sia interessante anche questa sua visione. È il suo politica, turno, possiamo magari dire che potrebbe essere il suo momento. Una, no? Staffetta. Una staffetta, bellissimo. Moglie e marito, sarebbe anche bello dal punto di vista, come dire, no? Ah, vero? Seduti per via, no, seduti vicino magari sullo stesso banco. No, grazie, dico la staffetta, dico no, no. Lei a casa e lui... Certo, questo va bene. E lui al Senato. Insieme al Senato, per carità, vicini uno accanto all'altro. Quello... Non siete mai stati tutta la... Mai. Sarebbe stato divertente. Sì. Senti, sentite ragazzi, sì, quando volete richiamatemi, ci, sì, facciamo due arrivate insieme. Come no? Ma cosa, cioè, fa stasera? Perché l'abbiamo, l'abbiamo sentito un po' arrabbiato. La vede pure lei, Santoro, la vede pure lei. Stasera, lo vede stasera, stasera lo vedo Santoro. Con Berlusconi. Però siccome, sì, ho gli amici del convegno, sì, una parte ve lo vedrà e, sì, l'altra sarà a cena. Sì, un'altra sarà a cena. Ultimamente l'abbiamo visto molto arrabbiato, signor Fede. Sì. Hai visto come è esploso? Fede? Sì, sì, Emilio, Fede, sì, è mio, suo marito. Ah, no, non lo so, non lo so perché. Ma che ne sale, devo... tanto? No, non lo so, non lo so. Non no, lo so. Perché? Ma come, grazie, non lo so. Grazie, non lo sa, non lo sente, non lo sente. Ma non è possibile che non lo sente. Solo questo. Ma lo sento, ma non l'ho sentito arrabbiato, l'ho sentito normale. Normale. Ma quante volte vi sentite al giorno? Solo questo si potrà sapere? Qualche volta ad un paio, qualche volta anche di più, secondo dei casi. Ha sempre, sì, quei problemini lui con il gioco, no? Un po' sempre. No, no, no, no, ma che gioco, no, è un tempo che non gioca più. Ma figuriamoci, certo. L'abbraccio, vabbè, fortissimo, l'abbraccio. Ci stia bene, signora senatrice. Tutto falso, tutto falso. Non, allora, mi tutto candido, falso, non mi candido. Tutto falso. Come diceva, pronto? Sì, sì, la sento, sì. Come diceva? Come diceva il grande François Villon. Sì, Maisoussant, le neige d'antan. Sapete tradurre? Sì. No, traduca lei. Beh, che abbiamo qualche difficoltà, però dica. Ah, com'è? Allora, ma dove sono le nevi d'una volta? Tutto passa, come avete detto voi. Cioè, tutto falso anche, io dicevo veramente. Tutto falso, no, tutto passa. Tutto, tutto falso, ma è tutto falso una notizia della candidatura sua e di Fede insieme al Senato. Oggi... No, no, no, no, quella non è una una notizia vera. Ragazzi, arrivederci. Un abbraccio, un abbraccio. Ci saluti Cavour. Ciao, ciao. Arrivederci. È una cosa pazzesca. È un grande reality questo qui. Potevamo approfondire di più sto convegno su Cavour, però. Potevamo approfondirlo un convegno attimo. Convegno su Cavour, però, mi sparo, scusa, la testa. Ma perché? C'era l'amico dell'Arti, che è sempre il numero uno. Qui in è Radio 24, è un piccolo approfondimento sul ruolo di Cavour. Vabbè. Basta! Basta! Basta! Ma basta chi? A Cavour, non ho capito. Ma perché? E Giannino ogni tanto si Ma era basta riferito a Cavour o alla De Feo? Non ho capito. Ma è arrivato sta telefonata di Berlusconi o no? A Giannino o no? Eh? È arrivata state a parlare di Berlusconi. Non lo so, però sono le 20:37 e mi segnalano gli amici della redazione di Anno Zero che la macchina di Berlusconi ha varcato in questo momento i cancelli di Cinecittà per la puntata di Servizio Pubblico. Ma veramente un minuto fa ho letto un tweet del Fatto Quotidiano. Berlusconi sta per arrivare agli studi. Com'è che ti dicono che è già arrivato? Scusa, questi qua. Beh, mentono quelli del Fatto, sì. Vabbè, Donato da Bari, buonasera. Buonasera. Dica. Salve, è un piacere parlare con voi. Vada. Niente, io volevo solo sottolineare solo un fatto. Prima avevate l'ospite Bocchino, giusto? Sì. Come parlamentare, se non sbaglio, lui è stato anche al governo, giusto? No, non è mai stato al governo. Mai ruoli di governo. Ma era in Parlamento, giusto? Beh, sì, era in Parlamento. Certo. Stando al Parlamento ha avuto la possibilità di cambiare le cose o di contribuire a cambiarle. L'ha fatto? Sì. Ma dipende dal allora, punto di vista. Allora per me tutti quelli che sono stati al Parlamento, tutti a casa, e non si devono poter ricandidare, devono andare a lavorare. Tutti quelli che sono nel Parlamento fino di gomito. Ho capito, tutti quelli che sono stati al Parlamento dalla fatica. Sì, con i rivoli, non fare i calli alla lingua e basta. Con i rivoli di sudore, lei dice, no? magari pure a spaccare le pietre, che dice? Spaccare le pietre no, sa le liste io cosa ne farei? Le liste, sì, cosa farebbe delle liste? Senta. No, questa è mia però. Questa è una... Fammi sentire bene il cesso che si... È una mia citazione questa. No. Esplicito, signor Parenzo. No, ma molto chiaro. Lo ritiri ancora, perché anche a me io ho una cosa che ho inventato, di cui ho primogenitura. Noi comuni mortali che ci dobbiamo alzare il mattino per andare a lavorare, ci siamo stancati, ci vergogniamo di essere rappresentati da certa gente. Lei che fa nella vita? Sia di destra che di sinistra, di centro, eh? Lei che fa nella vita, Donato? Io faccio il macellaio. Il macellaio. Bene. E sinceramente sono ragioniere, non praticante. Sì. E io lavoro dall'età di 7 anni. Il lavoro nobilita. Però sinceramente essere rappresentati da tante persone che non lo so, che ci gestiscono la nostra vita, i nostri interessi, io non lo so, mi alzo il mattino pensando solo alla mia famiglia. E basta, i miei principi. Va bene, Donato, grazie. Mario dalla provincia di... lo Stato. Questo è interessante. Ma cos'è questo? Il suo sciacquone? Ma è il suo? Ma che? Avete messo un altro sciacquone? Che sciacquone è questo? No, di qualcun altro. Mi hanno messo in collegamento con qualcuno che sta tirando la catenella del cesso. Ti rendi conto o no? Mario dalla provincia di Como. Vabbè, qui succede di tutto. Non è molto da Confindustria questo che abbiamo fatto. Comunque. No, Mario dalla provincia di Como. Diciamo che c'è poco da Confindustria. Ecco. Squinzi. Ma voglio dire una cosa squinzi. Sentiamo D'Alema la sette, aspetta. Questa è un'idea di Cruce. Che sarà sconfitto, ma non sottovaluto il rischio Berlusconi, di questa credo. Sua, spero, ultima battaglia. Diciamo. Perché Berlusconi ha una forza reale. Ha la capacità di mettere in scena sempre... La stessa storia, se lei ci pensa bene, sono 4-5 campagne elettorali che lui in tutte le campagne elettorali promette che toglie le tasse. È un argomento unico, poi non è accaduto mai, mai, perché la pressione fiscale è cresciuta in tutti questi 15 anni. Anche per colpa dei governi di sinistra. È cresciuta. Tutte che aggiungo io. Ogni campagna elettorale ne ha inventata una che avrebbe abbattuto l'aliquota. Quello però è vero. L'unica promessa che ha parzialmente mantenuta è stata sull'ICI, dico parzialmente perché l'ICI per le case più modeste l'aveva tolto il governo Prodi, ma l'effetto è stato disastroso. Perché poi l'effetto di quella promessa mantenuta è stata l'IMU. Quindi comunque Berlusconi dice che non ha potuto mantenere le promesse perché gli è stato impedito, perché il Presidente del Consiglio non ha potere, sì. Però io non sotto, per quanto possa apparire farsesco tutto questo, questo ripetersi sempre uguale, ma io non sottovaluto affatto che questo messaggio possa avere ancora in un paese disorientato, impoverito. Chi c'era? Mario, provincia di Como. Forza, diciamo. Pronto? Com'è che fai tu, la sua forza, diciamo. No, beh, non lo sai fare, dai. Mario, provincia di Como. Vede, dai. Caro Cruciani, diciamo. Bene. Mario, dica. Intanto, buonasera a tutti gli ascoltatori, anche a voi. Odia Cruciani quando dice buonasera. Odio i saluti, non sopporto i saluti. Che devo fare, Mario? Non sopporto i saluti. Mi dice buonasera. Certo, buonasera, non è la mattina. Buonasera. A me piace comunque salutare le persone. Sì, sì, va bene, a me non me ne frega niente. Siamo qui, mi dica quello che deve dire. E andiamo. Visto che siamo ridendo solo, però comunque devo dire che sono molto deluso da un po' come, anche dal popolo italiano come sta andando. Dal popolo italiano, deluso dal popolo italiano. Questo è interessante. Una volta verremo fregati, una seconda. Ma da chi verremo fregati? Da chi? Da noi stessi. Da noi stessi. Perché noi andiamo a votare, noi mettiamo su allora? quelli che ci hanno, siamo ancora la sensazione di prima. Io conosco un po' di persone all'estero, quando sento parlare della nostra politica, dico, ma come? Tutti i delinquenti li avete sul governo. Non ho parole, io non posso rispondere, hanno ragione. Fate un po' voi, io una soluzione ce l'ho. E qual è la soluzione? Io ho porto d'arma, una Glock con due caricatori 15 colpi, un fucile a pompa, 50. Io andrei a Roma, sono maestro di karate, ho anche una katana, entro dentro, metto la sbarra, sono sicuro che sistemo l'Italia. Posso farmi solo due cose? No, no, mi spieghi questa cosa. Mi spieghi questa cosa. Scusi, Mario, Mario. Sì, prego. Mario, scusi un attimo. Lei che cosa? Innanzitutto la sua dotazione qual è? Lei ha una pistola? Il suo arsenale. La pistola Glock. Io sono un ispettore di polizia. Una? Un ispettore di polizia. Lei è pure un poliziotto. In servizio. In servizio. Io posso andare sulla sbarra. Mi porto anche la katana e quando finisco i colpi vado avanti col resto. No, però mi scusi, non ho capito bene, non ho capito bene, scusi Mario. Lei è un ispettore di polizia in servizio? Sì, sì, certo. Cioè lei è un poliziotto? Io ho già fatto i 40 anni e grazie a loro non vado in pensione perché per due settimane cade nel decreto Monti. Vabbè, ma lei ha detto io ho una pistola, cosa c'ha? Qual è la sua Santa Barbara? Con l'arma d'ordinanza. Poi che cos'ha? Due caricatori con 15 colpi, quindi fanno 30, un fucile in dotazione per l'abbattimento. Sì. Sì. Sono altri un centinaio di colpi e poi mi porto la spada, mi porto la katana. La katana, la katana e la spada, scusi. E che farebbe la katana? È una spada giapponese. Sì, mi scusi. E allora lei che cosa vorrebbe fare? Presentarsi davanti alla camera? Lei che è un poliziotto di servizio? Certo, entro dentro sistemo tutti. Cioè ammazza tutti? No, non dico che li ammazzi, io sistemo l'Italia. A me poi possono fare solo due cose dopo. Solo due cose. La prima... mi danno l'ergastolo. Beh, quello quasi c'è. Questo è fuori. È probabile. È ragionevole pensarlo. La seconda, questo mi dà la medaglietta. Sa che quella però gliela danno al manicomio la medaglietta però. Lei si trova in casa ora, no? Lei è in casa. No, però allora... scusa, caro Mario, no, qui le cose sono serie. Caro Mario, lei è un poliziotto in servizio, ma è proprio sicuro di essere in servizio ancora? O non è che è in pensione, sospeso, no? Guardi, la mia soluzione, chi va al governo deve fare una sola cosa. Sì. Tre mesi massimo dovrebbe tagliare i costi parlamentari, sì, però lasciamo perdere questi dettagli e fare nuovamente il governo. Però, così, d'accordo, però io vorrei capire una cosa, signor Mario. Lei ha detto, siccome questi qua mi hanno stufato, se proprio mi girano le balle, se proprio vedo che le cose non cambiano, mi presento io armato di tutto punto, con la Glock, il fucile e la, com'è che diavolo si chiama quella spada? La katana. La katana, e che fanno? Una volta entrato in Parlamento così, posto che lei riesca a entrare in Parlamento così, cosa che mi ritengo piuttosto complicata, piuttosto, a meno che non ammazza le guardie, che cosa fa? Io comincio a sparare a destra e a sinistra. Una volta che sono dentro tutti io chiudo, non faccio più nessuno. Poliziotto in servizio, certo. Certo. Se faccio servizio faccio per bene. Però sono scusi Mario, lei è quasi da denuncia con questa telefonata, lei lo sa, sì. Ma da terrorismo. Lei è un poliziotto in servizio. Lei è un poliziotto in servizio. Ci sta dicendo che è talmente stufo di questa politica che prende la Glock, il fucile, la spada, i caricatori. Si presenta in Parlamento, vuole fare una mezza strage perché pensa di salvare l'Italia in questo modo. Cioè, ci sta dicendo delle stupidaggini, cosa probabile. Oppure vengono fra poco, cioè, cari carabinieri, i poliziotti che siete in ascolto. Viene l'ambulanza oppure che è già partita. Appunto. Viene un'ambulanza con due signori. Di più, due non bastano. Però la Santa Barbara che c'è in casa, scusa. La portano via, si rende conto o no? Certo, lo so, però anche dobbiamo che ne sparano talmente tanti. Vabbè, Mario, provincia di Como dove esattamente? Così per sicurezza, diciamo. Per sicurezza, per evitare, sono vicino a Saronno. Vicino a Saronno. Vabbè, comunque. La troviamo. Lei è un poliziotto, no? Giusto? Ma non ce ne sono tanti qua. L'unico che a queste cose sono qualcuno di uno di pochi. Vabbè, lei sta autodenunciando la sua follia. casa mia si nutrono di me quando il giorno scivola. Eccoci qui, Antonella da Roma, buonasera. Sì, buonasera. Vada. Ho sentito prima il colloquio che ha avuto lei, dottor Cruciani, con l'onorevole Bocchino. E quale, non ho ascoltato più altro. Vabbè, allora? Quale elettrice di Berlusconi non mi sento una minus perché ho l'intenzione di rivotarlo. Anche perché, per la verità, anche se solo il motivo fosse quello di non volere Bersani al governo, mi sembra lecito. Volevo esprimere solo la mia opinione. Questo, va bene, appunto. Grazie. Marcello da Sondrio, buonasera. Sì, salve. Io chiamavo in merito a questa discesa in campo di Sechi. È una cosa veramente che... Sechi, direttore del Tempo, sì. Commonti. Esatto. L'ho sempre seguito come un punto di vista obiettivo anche nei palinsesti e ieri me lo sono visto a 8:30 incartarsi per difendere il governo Monti. Quando incartarsi secondo lei, naturalmente. Sì, ovviamente dal mio punto di vista, quando comunque fin dalla tutte le altre volte che ho sentito parlare di Monti era molto più critico, ma di Monti come poi anche di tutti. Veramente lei si sbaglia, caro Marcello, è da almeno un anno... magari non dall'inizio del governo Monti, che sì, che è un grande sostenitore del governo Monti, della serietà tra virgolette secondo lui di Monti, eccetera eccetera, della credibilità di Monti. Non mi stupisce la candidatura, ma non mi stupisce che si candidi con Monti, non mi sembra un problema epocale quello di rintracciare una coerenza nel percorso di Mario Sechi candidato per Monti. Io l'ho sempre trovato critico anche sul discorso delle liberalizzazioni. Ma sì, ma uno può anche... qui c'è l'idea che se uno... Pronto? Sì. Aspetti un attimo. Che tutte queste telefonate stasera? Io non capisco, ma scappano... Pronto? Oh, caro Barbato! Barbato! Come sta? La Zanzara, come stai? Come stai? Come benissimo? Sto in ufficio. Lo so che stai. Senti, mi chiami sul numero fisso, se vuoi chiamare. Daccelo, 06, dacci il numero fisso dell'ufficio. 7760. Sì. 9659. Perfetto, 2 milioni di ascoltatori. Ti chiamo subito. Grazie. Ciao, grazie. Che diceva Riccardo, chi c'era prima? Marcello. Sì, no, dicevo che comunque l'ho trovato sempre critico anche sul discorso della riforma del mercato del lavoro, delle liberalizzazioni. C'è l'idea dell'appartenenza. Non è che se uno si candida, certo, a meno che non dica che è un criminale e poi si candida, è diverso. Cioè non è che se uno si candida con una persona deve approvare al 150% come un soldatino quello che dice quella persona. Succede anche che uno sia critico su alcuni aspetti, cioè per fortuna, certo, per fortuna esistono anche queste cose. Comunque Barbato, perdiamo una voce obiettiva dal mio Barbato sì. Eccoci, come stai? Bene, sto al lavoro. Sì, vabbè stai al lavoro, sì. Stai alla camera. Alla camera con un avviso di garanzia, vabbè. Nel mio ufficio. Ma scusa, tu hai detto che non ti candidi più dopo questo avviso di garanzia, giusto? Certo. Ma perché non ti candidi? No, primo per questo, secondo con chi ti candidavi? Innanzitutto non mi candido perché la morale la si pratica e non la si pratica. E quindi partiamo da questo. Ma sei solo indagato, non è che sei né rinviato a giudizio, nulla. Indagato, basta. Ma aggiungo anche che sono indagato di una cosa inesistente. Cioè c'è un complotto? Sono indagato di una cosa inesistente. Sì, di quella di avere chiesto a un imprenditore, adesso riassumo velocemente, non entriamo nel dettaglio. Ti posso riassumere io, visto che... No, fammi riassumere a me, scusa. Allora, facciamo molto prima. Tutto nasce da questo... Ti leggo la trascrizione dell'interrogatorio del 19... No, io leggo una cosa, scusa, ostentando le proprie conoscenze nell'ISVAP, che è l'istituto che si occupa di assicurazioni, di vigilare. Sei oltre milanese, perché questa è l'indagine che riguarda... Sì, però sei troppo lungo, fammi... Allora, brevemente, allora, Liscione mi risponde quando il PM gli dice, ma per esempio Barbato lo conosci? Ah, come no? Ah, quello mi chiede 2.000 euro e io lo caccio via. Ma 20.000 allora, quasi dice, 20.000 allora, avresti chiesto. Allora, la trascrizione dell'interrogatorio del 19-12-2010 a pagina 462 inizia con Liscione che... mi dice che gli avevo chiesto 2.000 euro. Poi lui dice 20.000. E poi mi si dice che mi sono fatto io avanti per aiutare. Vabbè, insomma, ma questo chi se ne frega, lo dimostrerai. La sostanza è che secondo l'ipotesi... Aspetta un attimo, un'ultima cosa manca, cioè che è stata, ed è in un'altra trascrizione di una telefonica, nella quale... Viscione mi telefona il 29 marzo 2010 è un imprenditore, e mi dice guarda, è vero che siamo in campagna elettorale però c'è un problema che mi riguarda, è come dire, voglio sapere, ti chiedo, giusto per sapere, puoi fare qualcosa? Questo me lo chiede, questa è la intercettazione registrata dalla guardia finanza. E tu? Allora, dico... E mi chiede di chiamare Resciniti, che il vabbè, senti, Francesco, è troppo lunga la cosa, poi ne parleremo un'altra volta. Ne parleremo un'altra volta. Tu sei accusato. Sì, ho capito. Mi fai spiegare un secondo? Che io faccio il giornalista ancora sui generis, ma faccio il giornalista. Allora, no, aspettami. No, ma no, aspetta, aspetta. Abbiamo pochi minuti. Abbiamo pochi minuti. Soldi, Barbato, soldi e un incarico per mia moglie. Allora, gli unici soldi che sono circolati. Vabbè, ma lo spiegherai. È impazzito. C'era un mandato. Barbato, voglio capire una cosa. Chi è che ti vuole incastrare, secondo te? Chi ti vuole incastrare? Guardami, io non faccio il mago che vede chi vuole... Siccome hai parlato oggi, c'è qualcuno che mi vuole fermare, un complotto per fermarmi. L'hai detto tu, non è che l'ho detto io. Chi ti vuole fermare? Allora, di questa vicenda, poiché è tutta inventata e risultano dagli atti che... Vabbè, secondo te è inventata. Chi ti vuole fermare? Chi è che il burattino? Chi è che ti vuole azzoppare? Chi? C'è un nome, una persona, un'entità? Chi? No, non ci stanno nomi perché... C'è il biscione che si inventa tutto per incastrarti, perché gli hai fatto un torto? Non lo so. Questo è sicuro perché lui venne da me, mi ha agganciato semplicemente perché voleva che io attaccassi Milanese e voleva che sostenesse nella campagna elettorale il genero. Barbato, voglio capire una cosa, con chi ti saresti candidato? Con Nicola Mancino, Nicola Mancino, poi su magistrato per evitare... Ma è un casino, dai, è complicato, nessuno sa niente. Barbato, io ti voglio dire una cosa, con chi ti saresti candidato, Francesco? Allora, io ho presentato un movimento che si chiama I Cittadini, che è un cambio di paradigma della politica. Vabbè, ma quello lo sappiamo. Devono essere loro protagonisti. Oddio, ma perché ti è presa questa cosa di attaccare i pipponi? Una volta non eri così. Cioè, io volevo capire, questi pipponi pazzeschi che non ti si può interrompere un attimo. Cioè, la notizia è che tu rinunci alla candidatura in questo movimento. Era una candidatura senza speranza. E basta. Cioè, non era una candidatura. Speranza lo dici tu, perché per gli italiani hanno speranza e probabilmente hanno speranza solo in me. Beh, adesso probabilmente vedono in me l'unico politico che parla come loro, che dice come loro, ma soprattutto fa i loro interessi. Vabbè. E l'ho dimostrato con gli atti, perché io ho cambiato l'Italia. Beh, adesso. 4 anni e 8 mesi. Perché le cose che ho fatto vedere agli italiani, soprattutto gli atti parlamentari che ho prodotto per chi stava perdendo il lavoro. Ma se stai sempre in televisione, dai, su, Francesco. Ma anche l'altro giorno eri a Piazza Pulita. Ci sentiamo domani, 18:30. Ciao. Ciao, buonasera. Ciao. Non mi venga a dire, lo so, no, il governo. No, glielo dico. No, ci sono due motivi per cui nessuno può fare... Le faccia così. Lei muove la bocca, gliela riassumo io, perché la conosco a memoria. Va bene? Dovete fare un applauso. Ma sì, va bene. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ma cosa cazzo arriva il suo parente? Radio 24, la passione si sente.